arrivati a tutti, credo di aver riconosciuto più o meno tutti. Iniziamo con l'assemblea. La prima cosa da fare è eleggere il segretario. A quel che mi risulta c'è un unico candidato, lui. Il segretario si elegge per alzata di mano, per cui se siete d'accordo che lui faccia il segretario di azienda, no, buonanotte, di assemblea, alzate la mano. Non alzare la mano è una candidatura per il ruolo, quindi... Va bene, approvato all'unanimità. Ok, adesso in maniera un po' più seria. Cosa stai facendo? Riassunto delle puntate precedenti. Che cosa è successo nell'ultimo anno? È stato un bell'anno, lungo e complicato. Questo coso è troppo alto. Abbiamo vissuto, lavorato sotto la spada di Damocle dei famosi 20 milioni di euro che Angelucci vuole da noi, barra da me. E abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo anche avuto un anno del direttivo non troppo semplice, visto che a un certo punto ci siamo trovati con due dimissionari, uno spontaneo e l'altro spintaneo. Quello spontaneo è rientrato ed erano problemi familiari, come qualcuno di voi sa, e ci dispiace tanto, e anzi Giulia vi saluta tutti, ma non è riuscita neanche oggi a esserci. Ma avere Giulia anche solo all'1% del suo tempo è comunque avere sempre una persona molto attiva e molto utile ai fini del direttivo, quindi è andata bene lo stesso. E poi abbiamo avuto Christian, che è arrivato sul finire dell'anno, via, si è beccato gli ultimi 2 mesi o 3 di lavoro, e comunque è stato un bello sforzo anche quello. Delle cose che ci sono da ricordare dell'ultimo anno, direi che come attività abbiamo tagliato un sacco di partecipazione agli eventi, non so se ci avete fatto caso, abbiamo cercato di non partecipare più a quegli eventi che non ci portavano assolutamente niente, non siamo più andati, ma forse già dall'anno scorso, ai vari Fa la Cosa Giusta. Quest'anno non abbiamo partecipato neanche al MEI, non siamo venuti al Biography in Festival, che negli altri anni era stato un discreto dispendio di energia, ma che tutto sommato come ritorno ci ha portato abbastanza poco. Ci siamo ammazzati ad organizzare un... io e Christian, sì, ci siamo ammazzati a organizzare un Festival delle Libertà Digitali a Milano, che ha avuto pochissimo pubblico e pochi interessanti anche tra i soci, ma che ha portato ad alcune collaborazioni future, quantomeno a conoscere delle persone molto interessanti. Di Lucca e della possibilità di partecipare a Lucca Comics ne parleremo dopo, magari tra gli eventi futuri, però è una delle cose che sono nate dal Festival delle Libertà Digitali. Altre cose che volete aggiungere? Sempre sul Festival delle Libertà Digitali, una cosa per il passato e per il futuro. Semplicemente per quello che c'è stato quest'anno, probabilmente lo sforzo immenso che hanno fatto soprattutto Christian e Frida, questo c'è da dirlo, è stato ripagato comunque dai contatti e dalle buone esperienze che sono state fatte per quegli incontri, quello sui fumetti che sarà probabilmente replicato, quello sulla musica che ha avuto un buon riscontro e ha portato anche a conoscere soggetti che lavorano all'interno di un certo tipo di mercato. Quindi, organizzato bene, abbiamo visto che tutto sommato funziona, sotto almeno il punto di vista dell'evento interessante. Quindi chiunque sarà nel prossimo direttivo, e comunque anche a tutti i soci, mettiamoci in testa che se lo vogliamo rifare dobbiamo necessariamente cominciare a farlo da ora, perché è assolutamente una cosa necessaria, richiede tantissimo tempo, tantissimo lavoro per farlo bene, ed è quindi necessario cominciare con un certo anticipo. Solo questo. No, e poi che se è una cosa che interessa solo me e Christian, abbiamo un modo migliore per passare un sacco di tempo, e i contatti in qualche modo con più fatica si ottengono lo stesso. Sicuramente un mese e mezzo di lavoro con Christian, che ha dovuto uccidere la sua vita sociale perché io lo precettavo nei weekend giorno e notte, non è il massimo della vita, ma... Beh, E poi dal punto di vista pecuniario, così poi dopo ce lo racconta Alessio, è stato un anno abbastanza interessante barra problematico. Problematico perché Wikimedia Foundation ha cambiato le regole del gioco e quindi lo shop in questo momento è morto ed è offline. È stato interessante perché abbiamo partecipato per la prima volta al fundraising di Wikimedia Foundation ed è stato interessante perché grazie anche a Nemo e correndo come dei matti siamo riusciti a partecipare quest'anno per la prima volta alla raccolta del 5 per 1000. Sì, beh, praticamente i punti essenziali li ha già detti lei, diciamo non avere lo shop è una cosa abbastanza, è stata abbastanza fastidioso in quanto purtroppo abbiamo un magazzino di cose che sono rimaste immobilizzate a lungo. Adesso stavamo cercando di raggiungere un accordo con il capitolo francese, che anche loro hanno lo stesso tipo di problema, ovvero sì, erano contenti di produrre gadget, venderli, anche se non esattamente con l'obiettivo di guadagnare dei soldi, ma anche come noi, se vogliamo, più con l'intento di coinvolgere i soci che si divertono a progettarli, insomma a creare un certo lavoro all'interno dell'associazione. E bisogna... esatto. C'è chi si diverte a piegarli, stirarli, insomma ognuno fa il suo. Spedirli a casa. E insomma si cercherà, abbiamo cercato di impostarlo fino a quest'anno, l'anno prossimo speriamo di raggiungere un accordo con i francesi e poi rivolgersi alla Wikimedia Foundation per vedere se ci autorizzano, insomma, al contrario della policy che hanno promulgato quest'anno, a mantenere lo shop. Che altro da dire? Speriamo che quest'anno il fundraising vada meglio dell'anno scorso, in quanto l'anno scorso era stato iniziato in ritardo, eravamo arrivati di corsa a riuscire ad aderire, avevamo perso anche un paio di settimane iniziali, quindi quest'anno impostandolo meglio, impostandolo dall'inizio, riuscendo a evitare altri problemi che si erano creati come la sospensione dell'account PayPal per qualche giorno, magari quello non è stata una cosa simpatica. Oltretutto sotto Natale. Oltretutto sotto Natale, quest'anno speriamo di raggiungere risultati migliori. Ecco, questo è quanto. Tra l'altro il prossimo fundraising sta per iniziare e l'anno scorso Alessio e Giulia non hanno fatto nient'altro a parte seguire il fundraising e registrare i dati dei donatori e quant'altro per più o meno tutta la durata del fundraising. Un paio di mesi. Quindi se quest'anno qualcuno gli dà una mano è assolutamente non solo benvenuto ma auspicato. Ecco. Tanto dovrà coordinarsi probabilmente anche con Stefano, che oggi non c'è purtroppo, che coordina il nostro CVCRM, quindi alla fine dovrà essere inserito tutto lì. Se non uccidiamo CVCRM prima. Sì, o muore Stefano o muore CVCRM, uno dei due probabilmente. Ok. La prima idea per migliorare la raccolta dei fondi, che è che adesso andremo ad aprire anche un conto corrente postale in maniera di permettere il versamento anche per mezzo di bollettini postali, che sappiamo qui in Italia è un metodo molto seguito e pratico. L'apertura di un conto ci può permettere di usufruire anche di un servizio di spedizione agevolato, di conseguenza il prossimo direttivo penso che cercherà di individuare un target di persone, quali possono essere per esempio i donatori dell'anno scorso o insomma si vedrà come, ai quali indirizzare una lettera con il bollettino, una lettera di presentazione della nuova raccolta fondi, un ringraziamento dell'anno scorso, il bollettino inserito, insomma, e cercare di implementare in questo modo. Si stava pensando anche di vedere se i fondi attuali lo permettono di vedere, di mettere in atto una qualche forma di campagna pubblicitaria, che potrebbe essere un'inserzione su qualche rivista, qualche spot su radio o cose comunque adesso da pensare. Aggiungo io una cosa, ed è che quest'anno Wikimedia Foundation sta usando anche un approccio diverso al fundraising. Ieri al bar di Wikipedia è comparso un messaggio di un loro impiegato che poi ieri sera ha scritto anche a me chiedendo una mano e degli input da parte delle community anche per divulgare la raccolta fondi in maniera differenziata, cioè invece del solito messaggio standard che traduciamo in tutte le lingue del mondo e che magari può essere interessante in inglese ma che poi suona malissimo in italiano, a pensare di fare qualcosa di più localizzato e che quindi possa essere più interessante anche in Italia, che sia più comunicativo, e quindi probabilmente supporteremo questa attività e in parte la faremo anche nostra, per cui non ti dico ricicleremo del materiale, però insomma cercheremo di farne un unico sforzo, anche perché nessuno di noi ci ha mai pensato prima, ma perché no? Liber libera in mente di fare. Ottimo. Abbiamo già i contatti. Se non sono in Giappone, come è successo per il Festival delle Libertà Digitali, un concerto di musica libera si può fare. Dobbiamo parlare degli eventi futuri o no? Prima c'è la prima. Fisica delle libertà. Allora, leggo io? No, devi dire qual è il meccanismo di approvazione delle libertà. Sul regolamento? Non l'hai, l'hai letto prima? No, un minuto, no. Allora, le delibere sono state pubblicate sulla wikina, wikimedia.it, nella pagina Associazione Delibere, dove sono presenti appunto con i voti. Secondo l'articolo 8 dello statuto vengono ratificate in assemblea, vengono ratificate per alzata di mano secondo le maggioranze dello statuto, che adesso è, vengono discusse nel caso 5 soci ne chiedono la ratifica esplicita, altrimenti si passa per silenzio assenso. Riassunto delle puntate precedenti, adesso dobbiamo ratificare tutte le delibere che non sono state ancora ratificate. Che c'è l'elenco? Sì, no, tu devi proiettarle di lì. No, devi loggarti. Puoi entrare con te. Ok, allora la prima delibera è quella dedicata a Cristian Biasco, è quella in cui gli abbiamo commissionato alcuni video, quelli che lui dovrebbe completare quest'anno sono la guida di Wikipedia che avete già visto, la guida di Wikimedia Commons che è in fase di ultimazione come gli suggeriscono, e la guida di Wikisource che è prevista entro la fine dell'anno / gennaio dell'anno prossimo. Qui ci sono le scadenze marzo, settembre, appunto, e dicembre, e ciascun video costa 3.100 euro. Il direttivo l'ha approvata all'unanimità. Favorevoli, contrari, astenuti? Favorevoli? Contrari. No, solo i contrari. Avete ragione, solo i contrari. A posto? All'unanimità. Va segnato. Sì, tu devi segnarlo qui. Questa qui è una lunghissima delibera di acquisto gadget vari e di riassortimento, di cui francamente andrei a dirvi solamente che abbiamo fatto la maglietta di Goethe, che è quella scritta tutta colorata, la maglietta Bibold verde fluorescente che qualcuno ha già in giro, e delle prove per un mousepad che poi non abbiamo effettivamente acquistato, e basta, direi. Il totale di tutto di tutta questa delibera erano 1.745 euro più IVA. Esatto, in realtà alla fine i mousepad non li abbiamo fatti perché, se non sbaglio, la prima prova non era soddisfacente. Non era... Sì. Che dovevano essere? Vediamo questo. Non le abbiamo fatte. Sì, le magliette bibolle ci sono. Chiedi al nostro magazziniere... È già assortito. Beh, ma è di febbraio, la notizia è arrivata verso giugno, una cosa del genere. Non abbiamo logicamente ricoperto maggio. Niente. Sì, basta che li chiedi a Giovanni. Ma anche i non soci se li trovi in loco, insomma. L'unico problema è sapere quali sono disponibili. Adesso vedremo se si riesce in qualche maniera a risolvere la cosa. Se no, anche per me gestire il magazzino è una cosa forte. In teoria, finché lo shop non riapre, finché non riusciamo a metterci d'accordo con i francesi, vedere come possiamo fare un nuovo accordo con la Foundation, per i soci che vogliono un gadget, i gadget che ci sono li sapete, certo, un'email. Non lo so se... che dici? Vabbè, al limite in ogni caso basta mandare un'email... Esistono registrazioni di eventi in cui Mike Godwin, l'avvocato di Wikimedia Foundation, dichiara pubblicamente: io non vi impedirò mai di vendere le magliette ai vostri soci. No, no, no, è vero, esistono, quindi è il suo, l'uomo della prova. È il suo leitmotiv per non essere inchiodato tutte le volte che lo vediamo, quindi va bene, allora sì, potremmo anche pensare. Qualcuno contesta la delibera? Prossima. Sì, vogliamo una maglietta in cambio. Hosting delle libertadigitali.org. Abbiamo ereditato quest'anno il sito del Festival delle Libertà Digitali che era stato fatto l'anno scorso da Luca Menini, il quale ha mantenuto il dominio, ma non partecipando quest'anno all'evento avrebbe disdetto l'hosting. Siccome il sito era già configurato, era già presente e avevamo poco tempo, io e Christian non avevamo nessuna intenzione di fare un sito da zero, abbiamo pagato l'hosting del dominio. Si trattava di 150 euro più IVA per tutto l'anno. Un sito fatto in Plone, non usate Plone. Esatto. Okay. Contrari. Dategli una maglietta così lo smette. Sì, ma il prossimo anno, beh, allora il dominio non è nostro, per cui dobbiamo sentire Luca per farlo puntare, ma chiaramente sì, lo spostiamo da qualche altra parte, anche perché quest'anno l'abbiamo tenuto lì perché nessuno di noi conosceva Plone, era un hosting dedicato su Plone ed era già tutto pronto e fatto, c'era solo da aggiornarne i contenuti. Aggiungere gli eventi, esatto. Non configurare niente, era tardi. Infatti. In alcuni eventi ci si poteva iscrivere. Sì, ma non c'è voluto, diciamo, si è arrivati il giorno dell'evento e non si sapeva dove finivano le iscrizioni. Cioè... era una... boh. Ancora se lo chiede. Quindi, vabbè. E poi un giorno sì, un giorno no, intorno al festival il server faceva strane cose, strani messaggi. Quando Cristian aggiornava le pagine poi non era più raggiungibile. È vero, per qualche minuto, poi dopo si rivigliava. Ci ho messo 2 ore per scrivere sta cosa, adesso non si vede più niente. È stata un'esperienza formativa, sì. Non usatelo. Ok, allora qui non ci sono quattrini, abbiamo deciso di patrocinare anche quest'anno la conferenza nazionale italiana di OpenStreetMap, OpenStreetMap sono i ragazzi che vanno in giro e mappano il territorio per... Abbiamo un ragazzo sì, qui davanti. Esatto, ne abbiamo uno qui davanti in prima fila, brutto, che pedala in bicicletta a fare queste cose, per cui se vuole poi lo racconta lui. Quest'anno mentre l'anno scorso era stata a Trento e io sono stata, quest'anno è stata a Genova e nessuno di noi mi risulta abbia partecipato. Neanche Giovanni, per cui l'abbiamo patrocinata perché ci piace il progetto ed era interessante l'evento, ma contrari. Avanti popolo. Poi sostegno economico, anche questa è un'attività che portiamo avanti da diversi anni, credo che questo sia almeno il terzo anno. Sostegno economico al chapters meeting. Tutti gli anni c'è un incontro tra i chapters, una sorta di microconferenza di un numero variabile tra 2 e 4 giorni in cui ci incontriamo anche con dei rappresentanti di Wikimedia Foundation e facciamo un po' di networking, barra discutiamo dei vari problemi. Quest'anno per Wikimedia Italia ha partecipato Alessio. Di solito cerchiamo sempre di finanziare e sostenere qualche chapter di quelli nuovi che non abbia sufficienti fondi per mandare i suoi rappresentanti. Per 2 anni credo abbiamo finanziato il chapter israeliano, quest'anno c'è stato invece una raccolta più centralizzata di fondi, per cui noi abbiamo semplicemente donato 1.000 euro che si sono aggiunti a quelli degli altri per finanziare i chapter poverelli. Sono stati poi ridistribuiti da Wikimedia Germania a seconda delle richieste, gli organizzatori dell'evento a seconda delle richieste che hanno avuto. Contrari. Il vulcano ha fatto sì che io fossi l'unico partecipante al chapter meeting, in quanto la seconda persona che sarebbe dovuta venire, ovvero Gianluigi Pagina Zero, era arrivato con l'aereo all'altezza di Monaco e l'hanno fatto girare e tornare indietro. Causa vulcano. E quindi questo è successo. Infatti. Sarei ancora a Berlino se non fosse per Ilario che mi ha portato a casa in macchina. Potevi dirlo, eh? Quindi ce la vuoi nel settore? Quindi sono gli scioperanti che hanno sabillato il vulcano. Allora, adesso ci sono almeno un paio di delibere che riguardano il Festival delle Libertà Digitali. Questa riguarda l'affitto di una sala a Palazzo delle Stelline dove abbiamo tenuto 2 eventi, uno dedicato all'open access la mattina e uno dedicato ai fumetti e alle licenze libere nel pomeriggio. Il costo dell'affitto della sala è stato di 2.000 euro netti e ci hanno fatto anche il 20% di sconto perché eravamo bravi. Più o meno. Contrari. Ok. In questo caso i 2.000 euro sono stati ben spesi, perché il posto comunque era bello. La sala era molto bella e abbiamo ricevuto anche assistenza, cioè quando abbiamo chiesto a qualche tecnico di portarci i microfoni, eccetera, sono stati molto pronti. Diciamo, delle location forse è stata Adesso arriviamo. Adesso abbiamo i servizi di comunicazione per il Festival delle Libertà Digitali. Dunque, in questa delibera c'è una cifra che non è mai stata spesa, nel senso che Christian conosceva delle persone che lavorano in IACI, che è un'agenzia di Milano che si è offerta di darci una mano tipo a una settimana dall'inizio del festival o giù di lì per fare un po' di comunicazione. Hanno fatto una serie di proposte e di cui avevano quantificato le spese circa in 5.000 euro e loro avrebbero messo la diciamo mano d'opera gratuita. In realtà l'unica spesa che è stata fatta sono stati 2.000 euro più IVA di pubblicità tramite Facebook, che è un'altra di quelle cose che non rifaremo mai più. Vuoi aggiungere qualcosa? Ok. Erano amici tuoi, però. Perché non ha... Perché non ha dato nessuno degli effetti sperati. Non è nulla, sì, e poi io ho molto poco apprezzato il fatto che ci hanno mandato un'email che non era esattamente gentile, secondo la mia opinione, perché per un errore non avevamo saldato l'IVA della fattura. E qualche settimana fa è arrivata un'email in cui ci dicevano: ah, non ci avete pagato tot. E, vabbè, è stato un errore. Però insomma il modo con cui l'hanno detto non era... Ah, preciso, l'errore era mio. Avevo letto la cifra in alto alla fattura invece che in basso. No, vabbè, poi al di là del fatto dei 2000 euro di Facebook che sono serviti molto a poco, in quello che avevano detto a Christian che avrebbero fatto e che ci hanno anche scritto, erano previste tutta una serie di attività del tipo: se veniamo agli eventi, facciamo live tweeting, comunque postiamo sui social network. Invece hanno scritto due o tre cose su Facebook e basta, e sobillando noi per avere i contenuti, dove sono le foto, dove questo, dove quello. Noi ci arriviamo con i nostri tempi e va bene, sì, avevamo chiesto una mano perché sapevamo bene quali erano i nostri limiti in questa cosa, e l'unica azione che è stata fatta era quella che tutto sommato è servita molto a poco. Contrari? Io sono contrario ora, però ormai... Ci siamo dimenticati l'appello, è meraviglioso. No, beh, sono quelle esperienze che uno poi non farà mai più, perché ormai lo sai. Ma sai cos'è? Che lì... Bene o male, guarda, io e te avevamo creato anche i vari eventi su... E tu? Avevamo creato i vari eventi su Facebook per il Festival della Libertà Digitale e tutto quanto. Il problema è stato che, alla fine, i nostri eventi avevano un tot numero di invitati. Gli eventi che aveva creato Yak erano pressoché deserti. La pubblicità su Facebook, io c'ero tutti i giorni, non ho mai visto una volta. Ti giuro, un link, uno. Uno! Ma perché era, forse era localizzato su Milano? Questo è già sbagliato, perché è un evento nazionale, non importa che si svolge a Milano. Cioè, io sono venuto da Grosseto, vado a Milano perché c'è una cosa che mi interessa. È una cosa assurda, considerando che da Roma a Milano non ci vuole ormai quasi nulla tra aereo e treno. Se localizzi un evento a Milano e va a beccare solo le persone residenti in zona, abbiamo finito. Vabbè, comunque, parentesi. Anyway, invece... Infatti. Loro hanno preventivato 2000 per i click. Loro avevano preventivato quello, infatti, 2000 euro in funzione di 2000 click. No, di più. Allora, se quei 2000 euro... Quei 2000 euro sono stati tutti spesi in ADV per click, cioè... dove c'era stato preventivato, perché appunto poi se uno localizza le cose secondo certi target, per cui non lo so, se uno mette una restrizione sull'età piuttosto che una restrizione geografica, eccetera, eccetera, eccetera, una restrizione sugli interessi, perché magari solo a quelli che parlano di informatica, per dire, non sto facendo esempio pratico, aumenta, e se non mi sbaglio avevamo pagato cioè mi parlavano loro, poi non so quanto hanno pagato effettivamente per click, di 22/25 centesimi per click, per cui fate il conto, 2000 diviso 25 fa 0,25 fa 8000, e quindi doveva essere questo. Ma effettivamente a posteriori, se posso dire la mia, la pagina che hanno creato loro su Facebook effettivamente aveva molti fan. Il problema qual è? È che avevano N fan, ma poi il coefficiente di quelle N persone che sono venute all'evento era bassissimo, cioè, che è una cosa che uno... Inesistente. Sì. E quindi è quello un po' il problema, nel senso, probabilmente quel tipo di forma pubblicitaria funziona se inviti 10 al concerto, oppure se inviti talmente tante persone per cui poi le persone che arrivano... Esatto, perché se magari su una pagina ci sono 100, 200, 300 fan, vabbè, forse mi sente. Ah, ma non sono in streaming. Se in una pagina ne sono 500 fan e ne viene mezzo all'evento, è sicuro che logicamente a livello percentuale, se ne inviti un milione, qualcuno alla fine capita. però non è forse nemmeno il mezzo più adatto per pubblicizzare la cosa, anche perché per come è strutturato Facebook forse. Sì? Non ho sentito proprio. La TV, sì. Sì. No, e poi nota che ne sappia lavorando per Dada. Ah, ottimo. No, nota a margine, c'era anche un altro problema di fondo, era una settimana prima. Noi all'inizio parlando abbiamo pensato facciamo qualcos'altro, una pubblicità su il metro che è la Free Press che danno nelle stazioni. Ecco, noi a parte che vabbè anche lì i costi non sono esattamente accessibili perché io ho visto dei preventivi e comunque si parla di qualche mila euro per giorno per sezione di pagina e vabbè, il problema era anche che non c'era tempo quindi vabbè sono tutte cose che se vogliamo fare il festival l'anno prossimo bisogna partire oggi. Sì, bisogna partire oggi, e quello è il problema. Okay. Cioè, se lo vogliamo fare dobbiamo cominciare ora. Ilario aveva una... Ilario? Abbiamo imparato una cosa nuova, nel senso nessuno di noi lo sapeva prima. Cioè, noi, visto che siete tutti qui, poi alla fine è una cosa che chiediamo anche a voi, chiediamo poi il direttivo attuale chiede a voi, non sappiamo chi ci sarà alla fine di questa giornata, ma al di là di quello, se vogliamo fare il Festival delle Libertà Digitali e farlo bene, non solo come diceva Cristian dobbiamo cominciare oggi, ma dobbiamo sicuramente investire in pubblicità con un'azienda seria, quindi decidendo se è il caso di spendere dei soldi, e saranno sicuramente molti di più di quelli che abbiamo speso quest'anno o che potevamo spendere quest'anno, per impiegarli in pubblicità fatta seriamente, su giornali e fatta... No, aspetta, aggiungo io una cosa, oppure, meglio ancora, trovare dei partner che già sappiano fare questa cosa, che viene molto meglio. Se guardi anche solo le ultime due assemblee che abbiamo fatto, noi non abbiamo emesso un comunicato stampa, al di là di averlo comunicato tramite Wikipedia e tutto quello che vuoi, sono gli enti che ci hanno ospitato che l'hanno comunicato tramite i loro canali e hanno ottenuto molto più riscontro di quello che noi abitualmente riusciamo a fare. Sicuramente. Era su una settimana, cioè erano tanti eventi che cercavano di prendere target differenti, interessi differenti, abbiamo cercato di differenziare veramente l'offerta, di andare a prendere tutti quei settori della cultura che riguardavano un po' la nostra associazione, quindi noi facciamo cultura libera, promuoviamo la cultura libera, prendiamo tutti gli ambiti culturali, cerchiamo di infilarci tutto. Ma infatti nella varietà ci sono alcune cose che sono andate molto bene e altre cose che sono andate male. Ok. Il WikiWall, quello è andato benissimo, è andato... Quello dei fumetti e quello musicale. Quello musicale è andato bene. Dipende cosa... Allora... A livello di pubblico nessuno è andato... No, vabbè, il WikiWall... Il wiki wall è anche e bene o male anche il, come si chiama, il quello Giro Milano, il Giro Milano, ma anche, okay, ma anche l'evento, che tra l'altro l'evento musicale al QB, cioè c'era tutto lo studio di registrazione pieno, eh. Io ho parlato 3 ore. Il problema è che pensa che palle alla fine. Ecco, per esempio, vabbè, continuiamo, andiamo avanti. Ok, grazie. Ok, la star del Festival delle Libertà Digitali, WikiWall, 1500 euro per farlo, più un qualche 100 euro o un 100 euro per le foto che erano appiccicate dall'altro lato e che si potevano portare via. Siccome abbiamo pensato di avere dei costi imprevisti, abbiamo fatto la delibera lo stesso. In realtà ci siamo assolutamente limitati ai costi che vedete qui. I 1500 euro sono stati il costo di costruzione e di prima installazione. Chi fa di mestiere roba collegata alle fiere sa che di solito la prima volta è una bastonata, la seconda no. Nel particolare abbiamo contrattato un accordo per cui se dovessimo riutilizzare il WikiWall pagheremmo chiaramente solo il costo installazione, che è nell'ordine di qualche centinaio di euro. Aggiungo che la ditta a cui ci siamo rivolti si è dimostrata molto professionale, offrendoci appunto lo stoccaggio gratis dell'elemento, nonché risolvendo alcuni problemi di montaggio che si sono presentati proprio istantaneamente. Credo trovati su internet. Sì. Cioè, non riesco a proiettartele da lì perché sono tutte sul mio computer. No, credo che non ci siano su Commons. Qualcosa è stato caricato. Se no dopo ve le faccio vedere da qui perché non riesco a collegarlo. Andiamo avanti. No, quelle del libero, infatti, dopo. Ilario, avevi una domanda? Sì, dopo ve le facciamo vedere. Se le troviamo, giusto. No, non c'è, Fede. Ok, contrari? Nessuno. Molto. Ha avuto un ottimo successo. Io ho documentato le varie fasi di scrittura e è stato pubblicato. Dunque, è venuta una televisione locale di Milano a riprenderlo ed è stato pubblicato, non mi ricordo più dove, forse su Repubblica. No, su Wired hanno fatto un articolo introduttivo al Festival delle Libertà Digitali, ma non c'era la foto del WikiWall. Meravigliosa, era centralissima. Non so chi di voi... Vuoi sapere cosa costa quella posizione a comprare? Per chi conosce la Triennale a Milano, era nell'atrio centrale all'ingresso, a metà tra lo scalone di accesso, la libreria e il bar, in un punto dove chiunque entra in Triennale passa. È impossibile evitarlo materialmente. Esatto. L'unica cosa che non abbiamo previsto era che noi l'avevamo pensato per scriverci, la gente è arrivata, ha disegnato tantissimo. Quindi va bene. Allora, ha comunicato bene perché comunque tutta la parte scritta c'era gente ferma che se la studiava e dall'altro punto chiaramente non ha prodotto una voce di Wikipedia, ma era anche difficile che lo facesse, però tra tanti disegni e tante cose che erano un po' fuori tema c'erano diverse riflessioni sul tema che avevamo dato noi, che erano le libertà digitali, che non era neanche particolarmente semplice, che invece erano molto puntuali e interessanti. Il concetto, o almeno per come ho inteso io, che poi ho portato avanti la vicenda, era più di, diciamo, essere presenti, cioè far vedere in giro il marchio e il nostro lavoro in una posizione strategica. Ecco, non ci aspettavamo che nascesse chiaramente una voce enciclopedica così. Questa è la sostituzione del membro del direttivo. Nicola si è molto spintaneamente dimesso, il Corda che è seduto là da qualche parte, ha detto no a questo giro, no, ci riprovo l'anno prossimo, e invece Christian ha accettato. Non ci riprovi. Obiezioni. Sei candidato? Ho capito. Basta. Shh. Grazie. contrari? Nessuno. Perfetto. La prossima. Torna indietro. Partecipazione alla gestione del tool server. Allora, sapete che cos'è il tool server? Spero di sì. È un cluster di server su cui sono presenti una serie di tool che aiutano a lavorare sui progetti. Il più famoso di tutti una volta era l'edit count, adesso ce n'è di ogni genere, qualsiasi cosa vi venga in mente che non è presente come strumento su Wikipedia, forse sul tool server c'è, e se non c'è potete farne richiesta. Finora il tool server è nato come strumento messo in piedi da Wikimedia Germania ed è arrivato a essere gestito da Wikimedia Germania, ma essere finanziato da loro e da Wikimedia Foundation, perché nell'ultimo anno questo insieme di server è costato 50.000 euro tra nuovi pezzi, banda, eccetera, eccetera, permanenza nella server farm. E per il chapter tedesco inizia a essere un po' inaffrontabile, o perlomeno non ritengono che il loro scopo statutario sia solo mantenere questo mostro. Per cui hanno proposto di creare un insieme di chapter che si occupi di gestire tutto questo ambaradan, sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista di governance. Ci hanno chiesto se eravamo interessati a entrare a far parte. Hanno creato tutto un processo che prevede due step di adesione. Un primo step che deve studiare la fattibilità di questa cosa e valutare se vale la pena creare una sorta di consorzio e se sì che forma giuridica dargli, e c'è anche uno step monetario per seguire questa attività che è stato identificato in circa 5.000 euro. Dopodiché è stato un secondo step, è la gestione per i primi 18 mesi di lavoro del tool server, che sono state identificate in altri 5.000 euro. E noi abbiamo deliberato su questa cosa, abbiamo deciso che ci interessava e volevamo che ci fosse una persona responsabile, perché il direttivo non era interessato a seguire questo, cioè non era interessato, non aveva al suo interno le competenze e il tempo per seguire questa attività. Io personalmente sicuramente le competenze. Per cui abbiamo chiesto a Luca se era interessato a seguire il progetto per conto dell'associazione, lui ci ha detto di sì, quindi abbiamo fatto una delibera in due step. Al primo step abbiamo deciso che ci interessava partecipare a questo progetto proposto da Wikimedia Deutschland, e al secondo step abbiamo chiesto a Luca se seguiva lui questo progetto per conto nostro. Guarda, il signore con la camicia verde a quadretti dietro di te sicuramente può dare una mano. Perfetto. Corda. I partecipanti? Luca. direttivo che potete mangiare. Ancora no. Al momento nessuno ha tirato fuori i soldi al momento noi non abbiamo ancora tirato fuori un euro, abbiamo semplicemente dichiarato che quando la cosa partirà abbiamo la copertura finanziaria. Immagino che anche gli altri abbiano fatto la stessa cosa. Nessuno ha speso niente. Vi chiedo una cortesia, siccome abbiamo tante delibere, se magari poi dei punti un pochettino che vogliamo approfondire tutti insieme li facciamo dopo, perché altrimenti non arriviamo alla fine. Contrari. Ah, ma quello non rientra in questa voce qui, sì, ma è già previsto che i soci che vadano in giro per le cose dell'associazione siano rimborsati. Ok. La prossima, il premio Wikimedia Italia 2010. Wow. Allora. Allora, no, c'è una premessa che va fatta ed è doverosa. Abbiamo iniziato a lavorare al premio Wikimedia Italia 2010 relativamente presto, verso aprile, insieme a Sannita, che era stato nominato segretario del premio per dare una mano, perché anche il premio l'anno scorso era stato un grosso lavoro che ci aveva portato via un sacco di tempo. L'idea era di farlo in collaborazione con Lettera 27, nostro partner ormai storico sui temi dell'Africa, e di fare la premiazione a Festival Letteratura a Mantova, perché ci sembrava interessante e un buon palcoscenico, ci interessava soprattutto in termini di visibilità. Dopo aver preparato il regolamento e tutto e averne parlato con i nostri partner, sono nati una serie di qui pro quo sull'uso del termine Wiki Africa e ci siamo fermati completamente coi lavori. Dopodiché, a fine luglio, mentre io ero in viaggio di nozze, Lettera 27 ci comunica, non mi ricordo più esattamente che cosa, sul premio, e io gli dico: ma guardate che noi abbiamo fermato completamente i lavori perché non ci siamo mai accordati sul regolamento del premio e su quali fossero i premi da istituire. Risultato: loro invece avevano già fatto partire tutta la campagna stampa, sul sito di Festival Letteratura era già presente tutte le informazioni relative al premio, nella loro cartella stampa c'era già, se ne era già parlato in giro, quindi il premio non poteva essere cancellato. Per cui in fretta e furia il direttivo a casa si è impegnato a tirare fuori una soluzione, quindi il premio è stato fatto partire comunque, chiedendo di segnalare ai soci, e invece di istituire una giuria esterna come era stata proposta in un primo momento con solo il presidente come rappresentante del direttivo, abbiamo scelto di avere una giuria interna per cui solo il direttivo, e di valutare solo i candidati che arrivavano tramite segnalazioni. Invece di richiedere delle licenze strettamente libere come una CC BY SA, ci siamo accontentati di chiedere delle opere in Creative Commons. Questa è la delibera di istituzione del premio. Contrari. Il corda. No. Non è questa delibera, è quella dopo. Lui ce l'ha col vincitore. Però tienti la tua contrarietà. No, bocciata? Ok. Prego. Guarda, allora. Basta, non entra nella delibera, ne parliamo un'altra volta. Hai detto no, anche una domanda che lasci lì nel vuoto, te la lascio galleggiare. Se vuoi una risposta, ripasso il microfono a Luca. Potete aprirmi la discussione che non ho ancora letto la risposta che Draco mi ha dato a tutta di notte? No. Scusatevi, potete parlare direttamente qui, che siete presenti? Poi dice la gente che siamo nerd, per forza. Cioè. Siete pregatevi di non lo so, se chattate a 5 metri di distanza mi occupo. Guarda, il problema è stato questo qua. Umanamente Lettera 27 è un partner particolare perché ha in effetti una marea di contatti, un certo peso, una copertura finanziaria, tutta una serie di elementi positivi che a noi tutto sommato fanno comodo. Nello specifico cosa è successo? Loro sono andati avanti indipendentemente da noi, cioè non si sono preoccupati di dire ma richiamiamoli un attimo, non abbiamo più saputo niente, no, loro sono andati a... prego. Quindi sono andati avanti indipendentemente dal fatto che noi avessimo approvato il regolamento, fatto tutti gli step che c'eravamo da fare. Loro ci davano per scontati. A quel punto, per evitare che loro perdessero tutta la campagna stampa fatta sopra, brutte figure e roba varia, abbiamo fatto così. Ok. Te l'ho detto come inizio di risposta, ti ho risposto. Ci fa comodo? Sì. Dal loro punto di vista siamo noi casinisti, dal mio punto di vista c'è stato un momento di completa assenza di dialogo, perché, scusate, se siamo partner in un'iniziativa e non troviamo un punto d'accordo, io non procedo, però infatti noi ci siamo fermati. Invece per loro non troviamo un punto d'accordo era una roba più irrilevante e quindi sono andati avanti, misunderstanding. Però tutto sommato, se la vedi, non mi sembra che in passato abbiamo avuto grandi problemi. Che questa collaborazione abbia portato a cose alterne, va bene. Che abbia aiutato a far arrivare Wikipedia e le altre cose, gli altri progetti nei posti dove di solito non arriva, è anche un po' vero, perché loro hanno tutto un giro di autori e di artisti da cui noi siamo completamente esclusi. Che il fatto di aver portato lì Wikipedia abbia avuto degli incredibili ritorni, no. Però... questo me la fa etichettare come un'esperienza negativa? No, posso dirti che ne abbiamo avute di molte peggio. Io spero sempre che un giorno questa cosa, cioè io mi aspetto sempre, ed è il motivo per cui io personalmente non ho mai cassato questa iniziativa, mi aspetto sempre che un giorno scopriremo se diventerà tutto rose e fiori oppure se fallirà miseramente. Nel momento galleggia, e quindi perché devo ucciderla? Non siamo ancora fidanzati, ci frequentiamo. Ma guarda, scusami, sono tutte donne, datti da fare. No, no, se viene eletto diventerà una questione istituzionale. Noi ti vogliamo come occhio languido ufficiale dell'associazione. L'ha già scritto la stampa, tutto sommato. Aspetta. Ok, adesso arriviamo a quella preferita. Ah, scusa, Chris. Era solo per dare una misura del silenzio. Io ricordo di essere capitato mentre si stava stendendo la prima bozza del bando, perché c'era da organizzare il festival. Da quel momento, da quando sono stato eletto direttivo, non si è più sentito nulla, ma proprio fino a quando non si è dovuto poi... Fine luglio, immaginatevi l'ultima settimana di luglio. Poi via. No? No. No, era una bozza. Il regolamento del premio, che poi Nemo ha commentato accuratamente in discussione, era la nostra bozza ed era quello che avremmo voluto usare, ma non essendoci accordati sul nome dei premi e sui premi che intendevamo dare nelle diverse categorie, sul ruolo delle due associazioni, eccetera, eccetera, quel bando di premio non è mai stato usato. L'unico bando di premio che è stato usato è quello che è passato in mailing list e che voi soci avete tutti visto, scritto da Christian, che spiegava esattamente in che cosa consisteva il premio e che cosa stavamo cercando. Quello è il regolamento. Esatto, con tutti in retroscena. Quella è rimasta. Quella bozza è stata prodotta ai tempi di Sannita, quando ce ne siamo occupati fin dall'inizio. Se posso dire, c'è stato secondo me un misunderstanding anche da parte dei soci, perché io la bozza l'avevo letta, l'avevo perché guarda che materialmente. Guarda che materialmente noi fino a metà luglio eravamo convinti di dire vabbè quest'anno niente, non lo facciamo. Sul serio. Guarda, è stato fatto esclusivamente per salvare capra e cavoli, va bene? È stata una decisione di compromesso. Abbiate pazienza, ogni tanto capita questo. Non ci riteniamo responsabili per quello che è successo perché noi abbiamo chiesto a Lettera 27 di dire... Ti va bene questo bando? No, perché non ti va bene per questo e quest'altro. Decidiamone, parliamone. Loro non si sono fatti più sentire. Ok? Trovati al momento in cui loro avevano già fatto tutto, siamo stati costretti per salvare il contatto e per evitare litigi, abbiamo fatto così, va bene? Quindi è servito? Quello non lo so. Grazie, non lo sapevamo, cioè, lo spiegavamo ma... Okay. Grazie. Sì, sì, io ho visto un po' di articoli poi sulla stampa. Anche perché poi il Festival di Mantova, insomma, sì, non è proprio il primo evento, voglio dire... Ok, delibera del premio, il vincitore del premio, è molto semplice, abbiamo avuto unicamente due segnalazioni, una era Samba Radio con una trasmissione sull'Africa e una era Nigrizia. E la motivazione per cui abbiamo scelto Samba Radio è stata molto semplice, sebbene avesse una licenza molto più chiusa, nel senso che aveva una CC by NCND, rispetto a una CC by SA di Nigrizia. Nigrizia era un progetto che collabora con Lettera 27 e con cui noi siamo in contatto già da più di un anno perché stanno cercando, ci hanno chiesto una consulenza su come digitalizzare i contenuti, su come renderli disponibili per Wikipedia, su come pubblicare su come utilizzare la CC by SA. E, c'è stato Nicolò Zamperini da loro una se non due volte a fare delle lunghe discussioni per spiegare come funzionava tutto quanto. Invece quello di Samba Radio era un progetto nuovo di cui noi non avevamo mai sentito parlare, non avevamo mai avuto nulla a che fare, tutto sommato ci sembrava un po' più interessante e poi perché era un modo per aprire un dialogo e iniziare a dirgli, come ho fatto io alla consegna del premio, perché l'anno prossimo non iniziate a eliminare quella clausola ND. E poi vedremo cosa succederà. E poi era proprio una cosa nuova che nasceva dal nulla, l'ha segnalata Yaken perché collabora con Samba Radio, ma non arrivava da noi, insomma, mentre in Igrizia tutto sommato sembrava una roba un po' troppo autoreferenziale. Anzi, oltretutto si poteva legare e si spera si legherà benissimo anche ai nostri progetti, posto che quei brani che loro hanno rilasciato con quella licenza potranno essere inseriti su musica. Quindi era anche una produzione di contenuti a noi favorevole e che poteva dare visibilità anche al progetto, tra le altre cose. Contrari. Ma guarda! Uno. Quale? Quello che doveva essere mandato, se non sbaglio, alla Fondazione Gari. Quello per la triennale? No. Dunque, adesso c'è un progetto che loro, tra l'altro, Corda, la risposta dei tuoi motivi. Loro stanno cercando di mettere in piedi un progetto con la triennale di Milano che coinvolga Wikimedia Italia, Creative Commons, sia finanziato dalla Fondazione Cariplo e ci abbia dentro non so più chi altro. È dedicato alle associazioni e agli enti che si occupano di fare cultura, preferibilmente dell'Africa ma anche no, e agli archivi, dove da parte nostra vogliono una collaborazione per spiegargli come scrivere le voci su Wikipedia. E pensano di tenere tipo 3 incontri in un anno in ospiti in triennale in biblioteca per fare formazione a questi signori. Sono in attesa di approvazione dei finanziamenti. Sì. Sì, noi speriamo sempre che sia il primo progetto concreto, che dopo 5 anni che facciamo cose... Sì, però capito, è passato un anno e ok. Ti dobbiamo rispondere o possiamo andare avanti? Corda. Fondazione Cariplo. Sì, sì. E l'ultima non è una delibera, nel senso che è una richiesta di Nemo che facciamo una delibera. Abbiamo scelto quest'anno per la seconda volta i membri del board di Wikimedia Foundation, quelli per i due posti scelti dai membri dei chapters. Abbiamo sia approvato il processo di selezione, sia abbiamo scelto due persone. Questa discussione è stata una cosa lunghissima in brevi step che si è tenuta sulla lista del direttivo e quindi è la ragione per cui poi non l'abbiamo deliberato. Abbiamo le persone che abbiamo scelto erano Arne Klemper e Phoebe Ayers. Juliana da Costa si è ritirata per inciso con la candidatura. E se, ho visto una tua domanda che chiedeva perché abbiamo eliminato Michael Snow, perché era assolutamente inutile anche con... meglio di così non ti poteva dire, no, eh. È vero, sì. Beh, te lo ribadisco, anche come presidente di Wikimedia Foundation non è servito a niente, nel senso non è una persona carismatica, non ha delle idee particolarmente brillanti, cioè è una normalissima persona, brava nel suo mestiere, che non è fare il presidente di Wikimedia Foundation. Ma neanche la forma, ragazzo. Scusa. No, e poi non era nemmeno particolarmente ben orientato verso i chapters, nel senso non combatteva la nostra guerra e quindi... Stato per lui ci sopprimeva tutti. No, non a questi livelli. Invece è stato molto bravo, secondo noi, Arne Klemper, e quindi gli abbiamo ridato fiducia, credo, guardandoci in faccia un attimo, abbiamo detto lui. E la seconda era Phoebe, che è un utente molto attivo, però tutto sommato era una scelta quasi alla meno peggio, perché a lei frega nulla dei chapters, anzi la prima cosa che ha fatto è stata durante la candidatura lamentarsi del perché il processo di selezione dei chapters deve essere così chiuso. Io vorrei farle notare che il processo di selezione dei membri cooptati dal direttivo di Wikimedia Foundation è altrettanto chiuso. Li sceglie il board e sono cavoli loro di come viene scelto. Uno è tedesco e l'altro è americana. E come mi fanno notare, le due persone che abbiamo scelto noi sono quelle che sono state poi elette. Ok, adesso in vista della prossima... Scusa, questa va ratificata? Va... Contrari? Perfetto. Approvata dall'assemblea. Approvata all'unanimità. Ok, in vista della imminente rielezione del Concilio... Bisogna seguire un attimo di prassi e con la lettura dell'elenco soci e la verifica delle presenze. Dite ci sono. Io ci sono. Snowdog. È lì. Ah già, le deleghe. M/. Le deleghe ce le ho già segnate. Vai avanti, dai. Allora, Sbisolo assente, Black Wolf assente, Mau presente in delega, Draco Roboter. Pagina 0 assente, Fantasy assente, Alberto da Cavalvarate, Iron Bishop, Ilario, Ettore, Marcel Bergeret, Cruccone, Don Paolo. È in delega a me. Archenzo, presente in delega. Ari 29. In delega. Edom, non c'è, Marius, Retaggio. Aspetta un attimo che vedi. No, non c'è. No, non c'è. Fede, lo so. dammi retta. Casinam. Arien delega a te. Siamo qui. GVF, Laurentius, Markok è in delega. Nick, Piero Tasso, Filippo F, non c'è. Sì, è in delega, ma io non posso accettarla. Semolo 75, Senpai, Xaura, in delega. Feddar, Felisopus, Jolly Roger, c'è. Tubi, non c'è. LP, c'è. Ermanon, presente in delega. Jacopo, Giacco 83. Obri, Popto Magic, Joe, Eascio, Chiado. Eascio presente in delega. Presente in delega, sì. Chiado, Cavallo. Chiado. Eh? Chiado, sì, in delega. Chiado in delega? Sì, sì. Ah, sì. Cavallo Razzo, Claude, Emilio 48, Bizzarria, Piriz presente in delega, Retore, Esculapio, Agatino Grillo, Leoman 3000. Agatino Grillo c'era? Era qui. Era presente Agatino Grillo. È andato via. E vuoi buttare una voce fuori? Cotton. No, ma lui. Mi mandi dentro le persone per cortesia, non posso far l'appello così. Oltretutto, tale soggetto Agatino Grillo non sapeva di essere socio della nostra associazione. Io gli ho chiesto, mi ha detto: se mi dici non lo so. Vabbè, mettici un punto di domanda. Umberto Tunesi, Dinwat delega, Torsolo, Torsolo in delega, delega. Remulaz, Paola Ercani, Elios, Cotton. Beatrice, Nemo, Agnellino, Riccardo, MM, Blackett. Blackett avrebbe dovuto non so delegare, se è arrivata la delega. Marco Calvo, Orbilius Magister, Lucresi, Avesan, Justinianus da Perugia, EH101, Camelia Boban, Fontanella, Nocciolo, Caspo, Saico, Caspo c'è. Caspo c'è. Ah. Se non me lo dici io non guardo. E tu devi parlare. Saico, Ingegner Francesco, Ali Prandi, Antonio LDF, Mizor dell'Orsa, Gialo, Linux Trent, Sentruper, Ilebru, Lori 74, Alec. C'è. Sentruper c'è. Perché non nessuno dice c'è? Perché non lo, presente, non lo vedo. Scusate, ma non lo vedo più. Non è presente. Fabex, Jerul, Mappo, Andrea Fava, Emidio, G. Sighele, Nera, Eternus, Beach, Omar Caldara, Sannita, presente in delega, Chloe, Iranal, Virtual Skits, Rosa De Vivo, Pasquale Popolizio, Super Franz 83, Veneziano, Cristian Cantoro, Abisis, Siravder. Sentruper l'abbiamo recuperato. Sentruper c'è. Stigmatizziamo Sentruper. Abisis, scusa. Non c'è. Vituzzo. Siravder è in delega a Marina. Ah, in delega. Io non l'ho vista. Ragazzi. Sì. Vituzzo, Snigger, Diuturno. Eren Davic, S. Di Bello, Zeng Labs, Ratatos, Egerola, Giozzava, Navacchia, c'è, non so dove c'è, Stefano Nesti, Michele Viti, Inlig, Isadorad, Giancarlo Dessì, Notafish, Caterina Ardeschi, Salviati, Rick Barrel, Follow the Media, c'è, Follow the Media c'è, Tom Fox, Triquetra presente in delega, Steph Mac, Io Pensa, LCM, Guido Mac, Marcus Calabresus, Tate, Mucca.it, Marco Bernardini, Jaken, Arturo Di Corinto, Capsicum, Massimo Ferri, Conrad, Padre Pio presente in delega. Non ridete. Arriviamo a questo punto. Boffetta, Guido, Fradema, New Bios, Simona Forti, Sergio Giglioli, Orlandini Giancarlo, Gipini, Novembre 21, Giorgio Puppi, 20, pardon, Giorgio Puppi, Lorenzo Pompei, Fabio Rinnone, Mamiche, Domenico Crescente, Dado Mema, Alpagor, Amaffa 46, Carlo Cicci, Antonio Alfò, Laura, Galliz, Flavia Andreani, Enrico Corti, Bagus, Renzo Pila De Giusti, Comitato VI, Red Geppi, NC Rinaldi, Massimo, Barba King, Mugnozzo, Gabriele Ciatti, Giorgio Simeoli, Gennaro Iannotti, Petit Verdot, Alba Gabellini, Michils, Uaco, Mape Alpa, Alex Brollo, è andato. Alessandro De Rossi, Vlad 2010, My Angel. Wow, ce l'abbiamo fatta. Le verifico? No, le verifico adesso, ho bisogno di scrivere. Arkens? Sta con Barzellette. Di che cosa vogliamo parlare mentre loro leggono le deleghe? Adesso dobbiamo passare al regolamento. Allora, mi apri la pagina? Va bene, intanto vi dico, c'è qualche piccola modifica al regolamento da fare, che dobbiamo votare, una, e riguarda sostanzialmente una proposta mia. Fammi fare così corrette al regolamento. Risultano presenti 42 soci, di cui 16 in delega. Sì. E no, ne avevamo anche un'altra proposta da Nemo, che secondo me è sacrosanta. Nemo, sei vivo? Su, in effetti, la sostituzione dei soci e dei membri del direttivo, che a questo punto ha un senso, visto che ci è capitato. Quindi le proposte le vedete dietro di me. Una sotto il mio nome, proposta Senpai, è da qua, è un po' dura. In base all'articolo 4 dello Statuto, il direttivo può accogliere come sostenitori persone fisiche o enti, anche privi di personalità giuridica, che forniscano sostegno economico alle attività dell'associazione. In particolare, il supporto del sostenitore all'associazione si caratterizza per la straordinarietà del suo contributo. Saranno accolti come sostenitori coloro i quali si siano distinti per particolari donazioni di denaro, oltre i 1.000 euro, oppure di beni mobili o immobili che, da un esame anche solo sommario, siano di valore superiore a 1.000 euro. In ogni caso, il conferimento della qualifica di sostenitore è ad esclusiva discrezione del direttivo, che ne approva la concessione con il semplice consenso e senza necessità di una delibera ad hoc. Socio sostenitore vota? Non è un socio sostenitore, si chiama sostenitore. Perché la prima, non essendo socio, non vota. Questo è già risolto. Il nostro statuto prevede che i soci siano tutti uguali, ragion per cui anche il solo fatto di prevedere dei soci sostenitori andava contro lo statuto. Quindi abbiamo diviso i due ruoli, abbiamo tolto da sostenitori la scritta soci davanti e sono solo sostenitori, i soci fanno solo i soci. No. Sostanzialmente è come la classica donazione che porta, che ne so, ad intitolarti un'ala di una biblioteca. È un titolo. Noi, che ne so, ad uno che ci dona una... No, gli intitoliamo un piccolo premio, che ne so, possiamo fare un premio se uno ci dura 1.000.000 di euro. Lo facciamo solo alla memoria, però, se non hanno più di 1.000 euro fate il piacere di morire. Di... Perché sostanzialmente non diviene un socio, cioè nel senso non entra a far parte dell'associazione, gli viene dato un riconoscimento, gli viene detto ok, hai contribuito, sei un sostenitore. Facciamo un esempio pratico, domani Microsoft arriva e ci dona 50.000 euro, vuoi non scriverlo da qualche parte? Sì, non lo scrivo? Se arriva l'associazione Amici dell'SS... Infatti voi lo dite sull'opportunità, cioè nel senso sul fatto che ne so che domani o Berlusconi o Bersani mi venga a donare 1.000.000 di euro e quindi si ponga il problema politico, è questo come vuoi dire? Le donazioni non si parla non è automatica. Non è automatica questa cosa, ragazzi. È sempre sottoposta alla decisione. Beh, in teoria la dovresti rispedire al mittente nel momento in cui ti arriva. Tu puoi rifiutare un pagamento, no? Sì, certo, glieli posso sempre restituire, non è un problema. Poi comunque non c'è nessuna corrispondenza diretta tra il fatto che tu mi fai una donazione e il fatto che io ti legga sostenitore. Una cosa viene fatta in più. E dico, sarà esclusivamente a discrezione di... Il vincolo di 1000 euro era per dare una cifra minima. Perché c'era stata una discussione in passato di cui tu forse non ti ricordi, che c'era un certo numero di soci che si associavano all'associazione pur non essendo effettivamente degli utenti dei progetti ed erano sempre stati iscritti come soci sostenitori perché non partecipando ai progetti Wikimedia non avevano un nickname ma si limitavano a pagare una quota e inizialmente sono stati intesi come soci sostenitori. Andando a creare una categoria ad hoc per i sostenitori, comunque... abbiamo cercato di discriminare tra le due. No, sì, sì, sostituiamo con saranno con potranno. Se me lo cambi. Invece che saranno fai potranno. Se potranno essere accolti. Vabbè, non lo leggo io da qui, Federico. Che cacchio. Marco. Nemmeno leggo là. Scusate, allora facciamo la delibera, così se l'assemblea non la ratifica. No, perché se non c'è la se non delibera, c'è la delibera non può, diciamo non hai modo di... No, ci sarebbe, cioè, però sostanzialmente dovresti fare, non faccio la delibera, però in sede di assemblea, ok, ho dato 3 titoli di sostenitore, mi toccherà prendermi quelli e farveli approvare come se fosse stata una delibera. Quindi non cambia niente, faccio prima fare la delibera. Però in effetti... Non ha tutti i torti. Va bene. Ok, noi effettivamente abbiamo già il fatto che noi ratifichiamo i soci in assemblea, no? Dopo lo faremo, sarà il prossimo step prima delle elezioni. Ragion per cui potrebbero anche ratificare i sostenitori. Forse fate meglio a cambiare i membri del direttivo e rivocare il titolo a Totò Mina. Cavaliere del lavoro. Aspetta, fammi vedere. Il sostenitore è selettivo che ne approva la concessione con la necessità di delibera ad hoc. Comunque la cosa più semplice per fare questa cosa è semplicemente che facciamo la delibera. Questo ve lo dico, la cosa più semplice. Modifichiamo e inseriamo che viene fatta normalmente la delibera e basta. Poi quindi, sì, come per tutte le altre cose, viene fatta una delibera, tanto di sostenitori non è che ne abbiamo 2 miliardi all'anno, sa? Uno, due, no. Allora mettiamo che deve essere fatta la delibera. No, non è socio. Ilario, eri assente, eh? Eri assente e non c'eri. Eri fuori, eh? È andato al bagno. Ne delibera, sì. Propongo. Ah sì, il titolo, ma sì. Il testo non so. Cioè abbiamo fatto tutta questa cosa apposta per quello. Inseriamo la possibilità di revocare la qualifica. No, una volta che tu sei sostenitore, l'assemblea deve poter revocare la qualifica. Se Marco Calvo smette di essere socio e diventa sostenitore di Wikimedia Italia, poi a un certo punto esce fuori di testa, uccide i bambini e stupra le vecchiette, cosa facciamo? Già lo fa! Cosa tutt'altro che improbabile! Le vecchiette erano tutte contente. Va bene, vediamo una formulazione che può andare bene. In ogni caso, confermate la qualifica sul territorio, scusa, addirittura. No, esatto, non possiamo aggiungere questa modifica al regolamento la prossima assemblea. La carica può essere sempre revocata. Può essere revocata con un normale delibera. Dai. Con nuova delibera. Possiamo aggiungere per gravi motivi. Se no, sembra che ogni 5 minuti ci troviamo a deliberare pro o contro. Però non è una carica. Il conferimento, va bene. Il conferimento, va bene. Anche il titolo? È italiano il conferimento. È legalese. Scusate, è voglio comunque fare presente che se avessimo introdotto questa carica già quest'anno, probabilmente avrebbe riguardato una persona, massimo due a mia memoria, quindi è una cosa molto... È sovrapponibile con il, scusami, è sovrapponibile con la carica di socio? No, altrimenti non abbiamo fatto niente. Scusate. Aggiungilo allora, esplicitalo. Non possono essere iscritti come sostenitori i soci dell'associazione. Sì, come abbiamo fatto con Fantasy. Con Fantasy abbiamo fatto così più o meno. No, c'era Marco Luca. Luca? No, qui sai che siamo prolissi. L'ho scritta io, non per niente. Vabbè, ti faccio una... No, non hai capito. Se tu doni 1000 euro sei virtualmente in grado di ottenere questa carica che non è una carica, ok? Va bene. Poi sappiamo che in realtà mangi bambini. Noi a questa cosa piace molto, ma non ti vogliamo come sostenitore. E quindi decidiamo di non prenderti come sostenitore, va bene? Abbiamo messo, senpai, leggi un po', il titolo è incompatibile con la carica di... Il titolo è incompatibile con la carica di socio, in modo che se tu sei con lo status... No, con lo status di socio. Ma parlo italiano. Vabbè, con lo status, dai. In modo che sia che uno sia sostenitore diventi socio, sia che uno sia socio e possa ambire alla qualifica di sostenitore, le due cose siano chiaramente incompatibili. No, perché il contrario? No, il titolo è incompatibile con lo status, il titolo, non la condizione. Ok. Rivoglio Sannita. Non ho capito. No, nemmeno io. Cosa? E l'occasionalità nel senso che sostanzialmente non è una... Allora mettiamo eccezionalità. Ma no, vabbè, ma non ha... Ho capito, ma è una cosa che non esclude l'altra. Per la consistente rilevanza... Poi dicono che gli avvocati sono rompicoglioni. No, poi tu sei molto proiettato sulla scena legalese. Adesso vi seguo le gambe. Contrari. Tutti. Io. Cioè, vi scuoio. A parte questo, possiamo darla approvata all'unanimità. Oh, che meraviglia. Bene. Poi abbiamo l'altra su. Adesso possiamo arrivare a quella di Federico. Torna indietro su alla pagina modifiche. Se vai, no, vai in alto, scusami. Vai in alto e cambia la cosa se no non ci arriviamo più. Modifiche, vai alla pagina modifiche lì. Associazione regolamento modifiche. Sostituzione di membri del direttivo, l'ultima in fondo. Ok, quello che ci sta dietro è stato che il nostro statuto prevede lo correggimi Federico se sbaglio, il fatto che quando si dimette un membro, uno o più membri del direttivo, possiamo sostituire fino a un terzo del direttivo. Il direttivo è composto da 5 soci e non possiamo sostituire un socio con un socio, cioè con, no, con meno di un socio intero, ecco. Perché... Che figura bruttissima. No, volevo dire, se si dimettono in due, come per un breve periodo ci è successo, quanti ne possiamo sostituire? Il socio lo arrotondiamo per eccesso o per difetto? È questo il problema. Che è una cavolata. Sembra però... una dieta, scusa. Sì, sembra una bischerata, ma è così. Quindi serviva necessariamente... che cacchio volete? Quello ho fatto nella vita. E quindi serviva necessariamente che nel regolamento fosse chiarificata questa cosa. Non potendo modificare lo statuto, rendiamo più chiaro lo statuto tramite regolamento. Quindi cerchiamo di poterne sostituire almeno due. È logico che la maggioranza del direttivo non debba essere sostituita così de plano, perché se cade la maggioranza del direttivo è necessario rieleggerlo. Questo mi sembra pacifico. Però almeno due su cinque, visto che non sono nemmeno la maggioranza. Per farla breve, la formulazione che propone Nemo è di arrotondare per eccesso, per cui nel caso di due membri che si dimettono possono essere sostituiti entrambi. Va bene? Va bene. Bene a tutti? Contrari? C'è Cristian Cartoro che avrebbe qualcosa da dire. Se sei contrario ti meno, però... C'era tutta la questione dei non eletti oppure cooptati diretti... In teoria andiamo per i primi non eletti, come sempre. Quest'anno abbiamo offerto la carica a Draco, Draco l'ha rifiutata, è stato eletto Christian perché era il secondo non eletto. No, erano 7 candidati. Anche Draco era costretto. Quello è un problema, infatti. E andiamo avanti in 4, a fare l'assemblea straordinaria. No, infatti. Cioè, se ne sostituisci tre. Però qui si parlava del cambio, nel senso che qualora io abbia finito i candidati, devo andare per cooptazione. Infatti. Chi è? Però a me questa parte magari discutiamone, non lo so, a voi piace? Visto? A voi piace? La cooptazione eventuale. No, era sempre stata, storicamente è sempre stata esclusa dal nostro statuto perché non è mai stata gradita la cooptazione. Nel senso che se non abbiamo cose rifacciamo le elezioni, molto semplicemente, per forza di cose tra l'altro. Poi diteci se a voi la cooptazione piace, perché il problema della cooptazione è questo, vi faccio un esempio classico. Un anno ci sono 5 candidati e vengono eletti 5 membri del direttivo, 2 se ne vanno, per cooptazione gli altri 3 sono in grado di scegliersi gli altri 2 e a me questo non sembra un granché bello. Poi fate voi, ma... No, io lo togli. Io... Stakhanov, facciamo un'altra assemblea. È un'altra assemblea. Io toglierei la parte sulla cooptazione... Ok, Nemo, ti blocco subito. Lo statuto ti dà una facoltà, ok? Sta a noi decidere se utilizzarlo o no. Allora ti dico, la maggior parte delle persone che io ho sentito, poi ditemi voi, logicamente siete qui, la cooptazione non è mai stata ben vista. Allora, lo statuto ti dà la possibilità, il regolamento lo facciamo come vogliamo, non vedo perché doverla inserire per forza. È stato approvato. Sì. Cioè lo statuto è approvato, il regolamento no, è stato tutto a posto, è cambiata la democrazia. No, la togliamo. No, la togliamo. Ma se è Nemo, è una cosa scontata. Di rimetterlo. Come no? Caspita. Se non c'è il direttivo, fai delle lezioni. Ho capito, ma nel momento in cui tu non hai un numero di membri sufficienti per fare il direttivo, non ce l'hai più il direttivo. Il direttivo non c'è. Non ho bisogno di fare delle lezioni. Se non ci sono 5 membri... Cita del codice civile, prego. Nemo, è una condizione de facto, ok? Cioè, materialmente, mi ci metto dentro anche io, ok? Se crepiamo tutti, il direttivo dura meno di un anno. Non credo che qualcuno per questo mi faccia causa. Se il direttivo si dimettono tutti, dura meno di un anno. Se si dimettono tutti, se si dimettono in quattro, se si dimettono in tre, materialmente un direttivo non c'è più. Quindi lo rieleggiamo. Se sono in due, no, non c'è direttivo. Perché un direttivo in tre non può lavorare, perché o sono tutti e tre concordi o non lavorano più. Se siamo in due contro uno, e noi a un certo punto lo siamo stati, eravamo uno, due e tre che erano attivi e presenti nel direttivo, se non eravamo d'accordo su tutto non proseguivamo, e a un certo punto noi non ci siamo trovati d'accordo su tutto, che è una delle ragioni per cui... No, mi spiace, il direttivo è di cinque membri e... No. La maggioranza è sul direttivo, non sui membri esistenti. No, il direttivo da statuto è composto da 5 membri. Se quei 5 membri non ci sono, non hai il direttivo. E comunque la maggioranza non è che si sposta e diventa 2, è 3. Se non ricordo male, le dimissioni erano ancora formalizzate. Sì. E poi comunque Nemo, guarda, il discorso è sostanziale, è questo qua. Se vuoi metterla dal punto di vista legale in chiaro, in modo migliore, tra 6 mesi ci rivediamo, votiamo una modifica dello statuto fatta un attimino meglio, però così all'impronta no, così all'impronta una modifica di questo, la cooptazione e le elezioni suppletive, mettiamole nero su bianco in modo decente, altrimenti magari facciamo una modifica adesso che va rimodificata tra 6 mesi, ci scriviamo e la scriviamo insieme. Grazie tante. Contrario. Contrari. Così come è formulata, che prevede la cooptazione. Con la cooptazione io sono contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attenzione, 10, io voto con 11, tutte le... 12, aspetta. Aspetta. 13 più le deleghe che sto andando a vedere. 4. 3. No, 13. 14, 15, 4. 16, 17, 18, 19. Piero Grandesso come ha votato? Scusate, 19, 20, 21. 22, 3, 4, abbiamo la maggioranza di no. Ok. La proposta viene respinta. Senza allora, cooptazione facciamo. La proposta viene respinta. A maggioranza. Dall'assemblea. A maggioranza. Ma Nemo, scusa un attimo, perdonami un attimo, Nemo, scusa un attimo, ma se la maggioranza funzionasse come dici tu, se a me viene voglia di conquistare il mondo e elimino gli altri membri del direttivo e rimango da solo, posso fare quel cavolo che mi pare? Secondo me, vabbè, due, la maggioranza vuol dire due persone che sono d'accordo, perché la maggioranza su uno, cioè, cos'è uno? Ho capito, ma tu stai dicendo, se sono in cinque, se ne vanno due, rimangono in tre, due sono la maggioranza, l'hai detto tu prima, non me lo sono sognato. Non ne parliamo più. Fuori, 1, 2, 3, fuori a discuterne, che io voglio andare avanti e che abbiamo troppo... Allora, scusate, la delibera è stata respinta a maggioranza, per cui è al momento inutile continuare a discuterne, se ne discuterà sulla wikina come si conviene. Procediamo con l'approvazione dei soci, come da... Sì, ma siccome è una modifica piuttosto consistente... Allora, fai una modifica. Scusami, vai direttamente, apri il regolamento dell'associazione. No, non modificare lì, vai sul regolamento. C'è già il regolamento. Cosa? Ma guardate, sostituzione integrazione, io l'ho modificato. Questo l'ho capito, ti ho detto, vediamo di fare una cosa fatta meglio, discutendone un attimino tutti insieme. Ma al di là di quello, per quanto riguarda l'arrotondamento per eccesso, mi sembra pacifico. Già. Lo so. Ma c'è sempre stata, ma non l'abbiamo mai voluta utilizzare, questo ti sto dicendo. E se cade domani? Appunto, infatti va modificato anche quello attuale. Puoi magari dargli una, lo vuoi mettere, lo vuoi inserire a durata specifica fino al... Esempio, si può inserire, viene cooptato un socio o più soci fino alla data di, in cui viene rivotato all'assemblea, tutto quello che vuoi. Metà dei soci. Beh, li abbiamo già abbassato, una volta era tre quarti dei soci, adesso è metà. Ti faccio notare che qui ce ne sono circa un quinto oggi. Beh, siamo contando le deleghe un terzo. Siamo riusciti ad ottenerne tre quarti quando abbiamo modificato lo statuto, quindi non è una roba impossibile. Sfiancante, ma non impossibile. Una balla infinita. Per un punto Martin perse la cappa. Non cavillare. Possiamo dare per bocciata la proposta? Sì, dai. Sì, c'è troppa roba da discutere in questa proposta, mi sembra, così come è formulata. No, ratifichiamo i nuovi iscritti. Io ve li leggo rapidamente tutti gli ultimi soci che si sono iscritti. Se avete qualche obiezione, segnatevi la cosa. Mario, puoi vedere se quelli fuori sono interessati? Ecco. Allora, i nuovi iscritti da ratificare sono la bellezza di 48, ve li leggerò rapidamente. Arturo Di Corinto, Capsicum, Massimo Ferri, Corrad, Padre Pio, Boffetta, Guido, Fradema, Nubio 71, Simona Forti, Sergio Giglioli, Orlandini Giancarlo, Gipini, Novembre 20, Giorgio Puppi, Lorenzo Pompei, Fabio Rinnone, Mamiche, Domenico Crescente, Dado Mema, Alpagor, Amoffa 46, Carlo Cici, Antonio Alfò, Laura Galliz, Flavia Andreani, Enrico Corti, Bagus, Renzo Pila De Giusti, Comitato Vui, Red Geppi, NC Rinaldi, Massimo, Barba King, Mugnozzo, Gabriele Ciatti, Giorgio Simeoli, Gennaro Iannotti, Petit Verdot, Alba Gabellini, Michils, Vu Ciacco, Mape Alpa, Alex Brollo, Alessandro De Rossi, Vlad 2010, My Angel. Contrari? Ma tanto che chiaro. Ostracos su di voi. Pagamento a quota 2010. Nessuno. Oggi nessuno. No, per delega. No, per delega 1. Mi ricordo quando sono presente, lo posso 42. 42. Ok. Direi che non c'è. Ok, adesso il presente direttivo lo ringraziamo calorosamente. Ci leviamo dalle e si leva dai piedi. E presentiamo i candidati. Vabbè, compresa me. Presentati e facciamo prima così, poi proseguiamo. E c'hai lì i nomi delle persone da chiamare. Allora, abbiamo la bellezza di 8 candidati, che è una roba assolutamente eccezionale visto la mancanza di candidati degli ultimi anni e la fatica che abbiamo fatto a sollecitare e chiamare tutti quanti. Scusate, prima di procedere con la presentazione dei candidati, chiedo una, tra virgolette, mozione d'ordine, per cui per favore prendete posto e silenzio, perché sennò non finiremo mai. 8 candidati, più la votazione, più il conteggio, più tutte le formalità. Per cui, per cortesia, per la prossima oretta chiedo un minimo di... Contenetevi! Esatto. Vai. Mi alzo in piedi così poi mi levo, dai piedi. Allora, molto velocemente, mi ricandido quest'anno perché... Non lo so. Non fate queste domande, perché probabilmente nessun altro vorrebbe cacciare 20 milioni di euro. Perché hai 20 milioni di buoni motivi per ricaricare. Esatto. Mi sento leggermente presa per i fondelli. A parte questo, no, come mio personale progetto per l'anno prossimo vorrei... L'ho scritto nella mia velocissima presentazione, tanti piccoli progetti concreti. Abbiamo lavorato per 5 anni su grandi idee, spesso e volentieri, su fare un sacco di cose bellissime e ci siamo persi tante volte in un bicchier d'acqua. Forse questa volta è il caso di ricominciare da piccole cose concrete. E forse l'abbiamo già iniziato facendo partire idee da Wiki, per cui sentendo da fuori, a noi non è che mancano le idee, tutt'altro, però tutto sommato ci serviva un po' un ponte verso i progetti con i quali ogni tanto ci perdiamo via. Per provare a ricrucire questo gap che c'è tra di noi. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, che cosa nascerà. Non ho intenzione di inventare personalmente niente di nuovo, ma dare il mio supporto e la mia mano a tutto quello che riusciremo a combinare. No. No. Però, no, prima dobbiamo procedere alla beatificazione. Va bene, io sono Luca Sileni, senpai, per chi non mi conosce, quest'anno mi ricandido, avvocato, sì, vabbè, nel tempo libero avvocato, quando non sono su Wikipedia e su Wikimedia, infatti, è il pranzo, sì, beh, tu che stupri le vecchiette, lo sai, vabbè, comunque mi ricandido perché penso di aver dato il mio apporto a questo direttivo negli ultimi 2 anni e spero di poterlo dare ancora per quello che so fare, per il tempo che ho e per quelle che sono le mie attitudini, che purtroppo, come vedete, spesso arrivano, prendono forma in questo modo, mi dispiace in effetti per chi poi è costretto a leggersele. Comunque va bene, a livello invece di idee spero che sempre di più la nostra associazione possa portare avanti il progetto di divulgare la cultura a tutti i livelli come cultura libera, quindi partendo, come siamo partiti con i progetti della Wikimedia Foundation, qualcosa più legato al testuale, grazie, ma evolvendosi verso tutte le forme di cultura e tutte le forme di arte. Ci stiamo provando con la musica, ci stiamo provando con i fumetti, ci stiamo provando in tantissimi altri modi. Spero che questo sia sempre l'obiettivo principale della nostra associazione. Quindi abbiamo ridotto il numero di eventi a cui noi partecipiamo, nel senso come invitati, ma possiamo cominciare davvero a costruire qualcosa noi, a fare qualche evento noi e sempre di più a partecipare a delle conferenze in cui abbiamo qualcosa da dire e a presentarci come associazione, perché in effetti facciamo un tipo di divulgazione che in tantissime fiere già esistenti può trovare posto. Ho l'impressione che chi mi ha preceduto sia preparato un discorso, cosa che io invece non ho fatto, quindi vado abbastanza a braccio. Sono Alessio Guidetti, Cotton, sono stato candidato e eletto la volta scorsa. Ho deciso di ricandidarmi essenzialmente perché quest'anno, quest'anno abbiamo cominciato varie cose e sono curioso di vedere come riusciremo a portarle avanti. Infatti nella nota che ho scritto come programma sulla Wikina è che io penso che l'anno prossimo, il prossimo direttivo, debba puntare molto sul fatto di riuscire a riorganizzare bene l'associazione. Dedichiamoci anche a noi, abbiamo molte cose da fare. abbiamo un sito da sistemare, dobbiamo decidere se abbiamo la possibilità e la volontà di cominciare a delegare qualche professionista, qualche attività, sistemiamo i soci, cose come non avere il modulo per iscrivere i nuovi soci volontariosi che c'erano oggi non devono succedere, insomma cominciamo a pianificare e a sistemarci, a mettere delle basi migliori. E secondariamente anche a me, visto che abbiamo ridotto il numero di attività esterne, nel senso di partecipazione a manifestazioni, a ritrovi, a fiere, però in qualche modo cerchiamo di riuscire a fare degli incontri, a trovarci e a muoverci anche sul territorio, cosa che quest'anno per varie circostanze non è stata fatta. Ecco. Io sono Cristian Consonni, Cristian Cantoro, sono entrato in corsa nel vecchio direttivo e sono stato anche il primo a ricandidarmi, quasi subito. A parte gli scherzi, ci sono tantissime cose da fare. Quello che ho visto in questi mesi è che praticamente la nostra associazione è in uno stato per cui non è più... ha una certa esperienza, non è più una realtà piccola, può fare tantissime cose. L'esperienza di Wikimania è servita anche per vedere che gli altri capitoli stanno facendo tantissime cose e quindi le cose che da fare sono davvero innumerevoli. Probabilmente siamo in una situazione in cui siamo un po' troppo piccoli per fare certe cose, ma non siamo troppo piccoli per farne altre. E quindi quello che posso offrire al nuovo direttivo è l'impegno che penso di aver profuso in questi mesi e continuare così per l'anno prossimo. Adesso si presentano tre dei quattro nuovi entrati. Uno oggi non è presente, e il primo è Roberto Corda. Il vecchio che è rimasto, per esattezza. Comunque io sono Roberto Corda, in arte qui è troppo alto, Draco Roboter, mi ero candidato l'anno scorso per spirito di servizio, visto che a quanto pare sembrava nessuno volesse fare il direttivo, questo era l'unico motivo per cui mi sono candidato l'anno scorso, quest'anno invece mi sono candidato per fare davvero questa cosa, nelle mie possibilità, cosa ho da offrire? L'esperienza di questa associazione fin dall'inizio, un pizzico di surrealismo dentro il direttivo che forse potrebbe fare bene, e quello che ho scritto in Wikina per le due persone che oltre mia madre che l'hanno letto, cioè prendere contatto di nuovo con la comunità wikipediana o wikixiana se possibile, anche se a quanto ho capito è molto difficile, e comunque prendere il contatto, come direbbero i politici veri, con la base. Cioè bisogna entrare, penso a Roma, nel luogo fisico che abbiamo preso, comunque nelle biblioteche, nei luoghi fisici, e andare e prendere contatto. Se proprio non è possibile fare in altro modo, prendere contatto via internet, ma sarebbe bello prendere contatto direttamente, parlare con la casalinga di Voghera e il Mario Rossi di Vimercate. Assolutamente. Assolutamente sì. Grazie. Niente, votatemi, mi raccomando, votate Cotton, perché sennò il tesoriere chi lo fa? Il prossimo giovane politicante è Lorenzo Losa. È in ordine come ce li ho sulla letta. Buongiorno, sono Laurentius e va bene, non volevo dirlo, ma inizio Sì. Se basta così sono molto contento in realtà, perché non so cosa dire, non mi sento bene, quindi ho difficoltà a pensarlo. E ho scritto qualcosa ieri. No, me lo ricordo cosa ho scritto. Ah sì, ok, la testa 42, che è una cosa fondamentale. Mi... Diciamo, non è il mio obiettivo fondamentale, nel caso non è... Sì, certo, a pranzo, durante il pranzo della festa di laurea, mi sono portato il portatile e ho... Mentre aspettavo il primo, mi sono messo a scrivere questo testo. Vabbè, lasciamo qualche secondo. Bene, dico solo che, se malauguratamente decidete di votarmi, cercherò di impegnarmi. Si spera che quello che ti manca in oratoria ce lo metti in impegno. Il prossimo e ultimo presente, Andrea Zanni, Aubry. Ciao a tutti, io sono Andrea Zanni, Aubry. Chi appunto legge la mailing list e la wikina sa che sono abbastanza monotematico. Mi interessa soprattutto all'interno dell'associazione dei cosiddetti GLAM, cioè dei rapporti con le gallerie, gli archivi, le biblioteche, e penso che sia una direzione molto importante per l'associazione, dato che altre associazioni stanno lavorando molto su questo campo. La mia candidatura è complementare a quella di Cotton, perché lui sa fare un sacco di cose, pensa all'associazione. Io mi sono candidato sull'onda di Wikimania quest'anno, che ho trovato un'esperienza veramente, anche formativa, e come diceva Christian, noi non siamo, abbiamo avuto la possibilità di vedere quello che fanno gli altri, e una sorpresa per me è stato vedere che gli altri non fanno tanto più di noi, quindi è stato anche un momento per vedere quanto di buono abbiamo fatto e quanto siamo vicini a fare. Esatto. No, comunque, ho visto che tanti avevano i nostri stessi problemi e tanti risultati, possiamo raggiungerli tranquillamente. Quindi, niente. Adesso, se permettete, leggo perché non posso fare altro, per l'assente, il suo programma. L'assente è Sergio D'Afflitto, Black Hat, un socio romano, che scrive: atteso che l'enciclopedia tra tutti i progetti il più famoso non è sotto la soglia di visibilità, anzi il contrario, ma è purtroppo vittima di interpretazioni errate, vorrei offrire il mio modesto contributo per collaborare nelle varie sedi a dare un'immagine più aderente alla realtà delle finalità e gli scopi dei progetti che noi promuoviamo. Sul piano logistico, mettermi a disposizione, anche se solo per poche ore alla settimana o al mese, per fare da punto di riferimento qui a Roma per tutti coloro che vogliono avvicinarsi ai vari progetti da fruitori e contributori, varie ed eventuali. Questo è quanto. Ora, procediamo con la... No, ho letto per la persona che mancava. Procediamo un attimo dal regolamento. Allora, la prima cosa che dovrei fare come segretario è nominare due assistenti al voto. Ho chiesto a Marina e a Remulaz, che non vedo. Sparategli un colpo alle ginocchia, per favore, giusto per attirare l'attenzione. Gambizzatelo. Ok, e accettate la nomina. Accettate, sì, penso. Ok, allora, niente, si tratta poi di aiutare a contare le schede, okay. Come ti dicevo prima. Allora, le schede sono qui, sono già state firmate, contate. 42 votanti. Se non ho chiamato qualcuno, qualcuno era fuori, non ha sentito l'appello, dormiva, lo dica adesso. A posto. Allora, verifichiamo se ecco, se qualcuno dubbi e non si è sentito chiamare, lo dica. Inglig c'è, sì, sicuramente t'ho visto io. Sì. Allora, facciamo che vi dico chi a me risulta presente e poi se dovesse mancare me lo dite. Per cortesia, però, ordine in sala. Dico chi... Ah, chiamiamo? Va bene, allora, ha ragione LP. Adesso chiamo per la votazione. Se alla fine qualcuno degli aventi diritto non è stato chiamato, venga qua e viene aggiunto a verbale e in lista. Allora. Abbiamo, da quel che mi risulta, adesso cerchiamo di capirlo, dovremmo avere due nuovi soci che sono associati adesso, cioè prima all'inizio della Perché assemblea. Perché nessuno ha detto nulla? Perché non sono nell'elenco soci che abbiamo ratificato. Adesso te lo diciamo. Cotton! Alessio? Una delle priorità della valletta è... No, allora, poi facciamo così. Le schede sono qui, le do io, le penne, tieni, le penne tornano. Allora, daccene una a testa. Due? Sono già sulla scheda, stai tranquillo. Siamo a posto. Ne basta una, perché tanto può dare. Va bene. Dammene. Allora, torniamo a noi. Allora, come si vota? Molti di voi saranno già pratici. Scusate un attimo. Per cortesia, come si vota? C'è l'apposita schedina, 5 crocette, schede con più di 5 verranno chiaramente considerate nulle. Prima di uscire dal, tra virgolette, seggio, che è là in fondo, bisogna piegare la scheda in 4 con la scritta all'interno e inserirla personalmente nella scatoletta che adesso mettiamo qua. Per cortesia, là dove ci sono i due valletti ci deve essere solo la persona che sta votando e le schede vengono ritirate qua da me, ok? Adesso procedo a chiamare i votanti. Ribadisco, se alla fine dell'operazione di voto qualcuno non, degli aventi diritto non fosse stato chiamato, venga qui e procediamo. Allora, un attimo solo. Due per volta ne chiamo. Elfrida Brioschi. Sì, scusa, adesso controllo anche le deleghe. Uno più tre deleghe, sì. Roberto Frangi, che non ha deleghe. Sfigato. Non hai deleghe tu. Ce l'ha là. Ok. Mario Benvenuti. Nessuna delega. Te la danno là prima di salire. Maurizio, pardon. Roberto Corda, il quale vanta due deleghe, quindi tu hai tre schede, te la danno là, le penne ve le danno prima di salire, 5, l'ho detto, 5 croci per massimo 5, potete fare anche meno, mi complicate solo la vita ma potete fare anche meno. Ilario Valdelli. hai delegati tu? No. Aspetterei che ritorna qualcuno, scusate. Scusate un attimo. Sei tu il prossimo, Mauro? Mauro? Giovanni Fasano che vanta due deleghe. Giovanni Fasano. Lorenzo Losa, Laurentius. Non hai deleghe, vero? No. Aspetterei un attimo che si sta formando coda. Quattro, piegate in quattro per cortesia. Ricordo che le schede vanno piegate in 4. Grazie. Allora, Piero Grandesso in 4 piegata? Piero Grandesso, scusami, una più due deleghe, sì. Vai. Okay. Luca Sileni, che hai tre deleghe tu. Vai però, Ma li hai firmati? Luca Sileni a posto. Aspettiamo un secondo che si forma coda. Forza giovani. Non date retta a Fabex che vi convincerà a votare per lui anche se non è candidato. Io voto alla fine. LP che vanta zero deleghe. Piegato in 4? Sì, bravo. Andrea Zanni. Sì, è scritto. Piegato in 4? Bravo, ha votato. Gian Remulaz. Ah, votiamo alla fine. Scusa. Alessio Guidetti. Alessio, prego. Federico Leva. Una delega hai. Il tuo è uno. Sì, ve le danno là. Marco Calvo. Senza deleghe. Luca Landucci. Caspo. Scusate, ma Caspo è andato via? Ok. Come si conta come? Non dopo. Ok. Ivan Miani. È piegata in 4? Wow. Ivan Miani. Prego. Non hai deleghe. No, deleghe. Ottimo. Fabio Baioni. Allora, Fabex? Perché stai là? Ma va, ma sono là in due, dai. Non hai deleghe tu. Tu non hai deleghe. Te le danno là. Fabio Baioni, Explosive. Cristian Consonni, che non ha deleghe. Massimiliano Navacchia. Navacchia. Scusate, qualcuno chiama fuori per Massimiliano Navacchia? E Inglig anche possibilmente. Eccolo lì, non ti avevo visto, scusami. Non hai deleghe tu, vero? No. Ok. Massimiliano c'è? E direi che conta come assente. Emanuele Casadio. Deleghe, scusami. Deleghe nessuna? Andiamo avanti così tante schede. Non può mettere un cazzo bene. Allora. Bravissimo. Tu sei social? Allora, adesso aspetto. Allora, i soci che non, aventi diritto di voto che non ho chiamato, vengano qua dalla mia parte per cortesia, che aggiorniamo la lista. PHI? Ma il nome. Perché non ti ho io nell'elenco soci? No, eccolo qua. No, è Delfino, scusami. Dentro lì. Scusa un secondo. Frida? No, ma il problema è che io ho una lista soci che a questo punto non vorrei che... mi manca un socio nell'elenco soci. Nell'elenco soci non c'è. Ho anche il suo pagamento registrato. Come fai a dire Novara? Novara fa. E allora non l'hanno registrata correttamente nell'elenco soci? Quindi lo aggiungiamo. Non mi è mai arrivata la tesserina. La tesserina adesso glielo chiediamo, però in effetti... Aspetta un secondo che c'è un piccolo problema. Io l'ho vista nel tuo elenco. Sì, lei c'è. No, lei non lo sa. Non c'è ancora, vabbè. Lo integrerai tu. Dove sei finita, ma ti... Quindi sei presente. Scusate, no, allora. Dall'elenco suo ci sei. Perdonami. Guarda, ti sei già firmato, Fede. No, perché sono contate, per favore non far casino. Quindi ora posso andare. Sì, puoi andare. Tu sei... No, ok. Mancano altri soci non chiamati? No. Marina Milella, che vanta due deleghe. E allora intanto scende Remulaz, e che ne ha uno solo tra l'altro. Qualcuno, scusate, anche quelli fuori se possibile, mi date una voce fuori per cortesia? Se qualcuno non è stato chiamato al voto. Se qualcuno non è stato chiamato o gli è mancata una delega? siamo proprio. Sì, adesso arrivo anch'io. Tre assenti. E adesso vado. Allora, scusate, adesso, mentre io e gli assistenti svolgeremo il conteggio delle schede laggiù in fondo, Roberto Corda presenterà... Ho capito, ciò non toglie che mentre noi faremo i conti delle schede, tra 5 minuti, Roberto Corda presenterà i risultati di un sondaggio da lui condotto con metodi discutibili, così, sulla fiducia. I signori che sono all'esterno del locale sono pregati di portarsi al suo interno, grazie. Adesso sì? Ok. Mettetevi pure comodi che il Corda sarà lungo, prolisso e noioso come al solito. Prego. Allora, il riassunto delle puntate precedenti di questa cosa è che qualche mese fa abbiamo lanciato un sondaggio a proposito di Wikimedia Italia, chiedendo al popolo, e quindi cercando di contattare il maggior numero di persone possibili, non solo presenti sui progetti Wikimedia, ma ad esempio in giro sui social network, e l'abbiamo bloggato in tanti, twittato e quant'altro, che cosa sapevano, che cosa pensavano di Wikimedia Italia. Il Corda è quello che si è preso l'onere e forse anche l'onore di stendere questa survey, e adesso ci racconta un attimo quali sono stati i risultati. Grazie, basta applausi. Come ha detto Frida, abbiamo parlato in mailing list, cioè tra noi, sul tema che già ho affrontato nella mia candidatura, cosa la comunità WikiX, cioè principalmente Wikipedia ma neanche altre, pensa di Wikimedia Italia. L'impressione generale prima di questo survey, che in parte il survey ha avallato, è che o non ci conoscono o pensano non sempre cose buone di noi. Comunque, abbiamo fatto questa discussione e il survey, che era su piattaforma web, una cosa di Google, chiedeva sostanzialmente se conoscevano VMI, se conoscevano VMF e cosa pensavano delle due cose e quanto pensavano che le due cose fossero utili. Se volete c'è l'Excel completo con tutte le risposte. Chi fosse interessato ce l'ho su formato elettronico, su Excel. Cioè in realtà su OpenOffice, ma... Però io uso di solito Internet Explorer su Windows, XP, e c'è una foto di Bill Gates in cameretta. Siete degli estremisti. Comunque, questi disegnini rappresentano una statistica delle risposte. Conosci UMI, che si può riassumere in sì. Tutti sostengono di conoscere UMI. Per chi non sapesse, UMI vuol dire Wikimedia Italia ed è l'associazione che si è riunita oggi. Un giudizio sintetico su UMI è sostanzialmente positivo, perché adesso non ho neanche fatto i conti, ma molto più del 50% sostiene che o è inutile oppure è utile. Esatto. Non sono percentuali, sono numeri. Se ho scritto un progetto wiki, un po' più della metà dice di sì, anche se uno va a vedere dentro le risposte a volte non hanno capito la domanda, ma non importa. E VMF, che è Wikimedia Foundation, cioè la fondazione che paga per la parte, diciamo, server di Wikipedia, tra le altre cose, sostanzialmente le percentuali sono le stesse di VMI. però sono più pericolosi e credo che sia esattamente la cosa che ho scritto io rispondendo al survey che io stesso avevo fatto. Comunque, sostanzialmente, vabbè, questo chiaramente il mio non è una disamina scientifica, ma quello che ho, l'impressione generale che mi ha dato il leggere queste risposte. Il nostro problema come associazione è che in parte non siamo conosciuti e in parte anche quando conosciuti non siamo riconoscibili, che è una cosa diversa. Sostanzialmente l'utente dove ci conosce si chiede: ok, la WMF paga per il server e voi cosa diavolo fate? Cosa diavolo volete dalla nostra vita? E soprattutto perché voi avete dei privilegi che noi non abbiamo, come mettere il banner su Wikipedia? Chi siete? Voi siete uguali a noi e peraltro non pagate neanche il server di Wikipedia. Quindi sostanzialmente un po' non ci conoscono proprio del tutto e un po' vorrebbero sapere bene qual è la nostra identità, qual è il nostro scopo. Questo è un riassunto, diciamo, della parte semplicemente qualitativa, cioè cosa pensano di noi, cosa pensano del WMF. Vorrei far notare, poi lo ridirò, che questo numero è falso. Cioè, conosci WMI quasi il 100%, oltre l'80%, in realtà io ho fatto un conto che in realtà ci conosce veramente saranno 2/3. Gli altri ci confondono con Wikipedia, con WMF e probabilmente con, non so, la Biblioteca di Stato o altre entità culturali più vaghe. Un'altra domanda era: che cosa potremmo fare? Qui le risposte sono state varie, alcune così a occhio, che fanno parte di questo 30% che pensa che noi siamo un'altra roba, sostanzialmente vorrebbero che noi moderassimo Wikipedia, oppure che facessimo dei corsi introduttivi online su Wikipedia, praticamente un super amministratore. Questa è una cosa che noi non vogliamo fare sostanzialmente. Qui ho fatto un elenco, poi chi vuole approfondire può leggerselo bene, delle cose che invece è nostra intenzione di fare, in parte stiamo facendo, in parte non possiamo fare o facciamo poco perché non siamo abbastanza famosi. Le altre leggete, comunque quella a cui io tengo di più è questa. Cioè, il mio punto di vista come socio, come wikimediano, amico, compagno, fratello, camerata, è che il nostro compito è politico. Cioè, noi dovremmo, per portare avanti questa nostra idea della coscienza libera, fare pressione politica, sociale, culturale, ma anche politica. Politica non significa candidarsi, significa cercare di avere contatti con i decisori e convincerli che è buono per tutti e per loro, non so, liberare i testi, oppure donarci dei testi, oppure pubblicizzare il fatto che esistono delle licenze libere, eccetera, eccetera. E va bene. Esatto, appunto. Allora, questo, diciamo, è una cosa pseudostatistica. Queste invece sono le mie, punti di vista umanistici sulla faccenda una volta letto. Il nick Draco Vaffanculo sostanzialmente è stato il peggiore, sostenendo che appunto dobbiamo andare a zappare, non serviamo a niente, siamo degli ignoranti, eccetera, eccetera. Chiaramente questo era... non saprei. E lo ringrazio molto, in particolare perché mi ha fatto molto ridere, ma questo qua è il titolo del libro che prima o poi scriverò ed sarà in tutte le migliori librerie. Questo vuol dire che poi lo comprate, eh? Ok, va bene. Poi appena assolutamente darò l'autografo a tutto. Comunque in realtà, oltre a tutte le sciocchezze che ha scritto il tata qua sopra, il punto è il perché te lo dico io. In realtà questa è una mia opinione sulla faccenda. Cosa? Ah sì, il macete con, cioè la cosa con la mia firma sopra, va bene. Se paghi abbastanza c'è qualsiasi cosa. Allora, di che cosa si occupa VMI? Qui ho tentato di riassumere, non da un punto di vista statistico, cioè non per frequenza, ma le cose che mi sono sembrate più interessanti, importanti o sorprendenti. Questa risposta in particolare, secondo me, riassume bene il dubbio di cui parlavo prima. Voi non siete, voi questo utente, personaggio, persona, non so chi sia, parlandoci dice, voi non siete la WMF, non trattate Wikipedia, quindi sostanzialmente dal mio punto di vista non fate niente di utile, non avete neanche non fate neanche protezione legale, cose così, quindi chi siete, cosa volete? Ora, chiaramente io ribatterei che facciamo un mucchio di cose e sono quasi tutte utili quando ci riusciamo, però il fatto è che bisognerebbe spiegarglielo a lui e a chi per lui. Prego. Vorrei precisare che queste sono estratti a volte un po' ripuliti delle risposte, non sono una mia opinione. Ok, vabbè, insomma la tua risposta è la colpa è di WMF che non lo sanno neanche loro. È vero, è vero. Infatti parte del problema è questo, anche secondo me. La seconda risposta, che fa parte diciamo del 10% che onestamente ha detto non sa niente, dice ha a che fare con Wikipedia. E qui, diciamo, questo è un problema, però è minore. In realtà, comunque, un buon 60-70%, circa due terzi ho stimato, in realtà più o meno sa cosa siamo, anche se poi sbaglia nei dettagli. Poi, vabbè, la terza è, diciamo così, la risposta giusta, almeno quello più o meno la risposta giusta, quello che noi speriamo sia la risposta giusta. E questo lo dice, adesso non so, però meno del 50%, sì. Quindi, come ho scritto, facendo una stima, circa il 30%, anche dichiarando di sapere cosa è VMI, in realtà non lo sa. E appunto ci confondo con WMF o con questa Wikipedia Italia inesistente, o meglio esistente ma non ha rapporti con Wikipedia, eccetera eccetera. Allora, queste sono invece delle proposte che ho letto rispetto a cosa dovremmo fare. Allora, la prima è sostanzialmente la base del nostro obiettivo, promuovere Wikipedia. Vabbè, qui andrebbe generalizzato la cultura libera eccetera eccetera, però diciamo che il concetto è quello, fare pubbliche relazioni e soprattutto i rapporti con gli utenti dei progetti. E c'è una scollatura, e il nostro amico c'ha ragione, c'è una scollatura, tant'è che spesso veniamo visti proprio male dalla comunità Wikipedia. Beh, da una consistente parte di... Vabbè, questo è un'opinione POV su cui metterei citazione necessaria. Va bene. No, certo, però vorrei la citazione necessaria. Oggettiva, va bene. Vabbè. L'altra cosa è il rapporto con le istituzioni culturali. Istituzioni politiche e culturali, fare corsi e poi una cosa, vabbè, diciamo che fin qua ci siamo, sono le cose che vogliamo fare o che abbiamo fatto eccetera eccetera, mentre questa invece mi è parsa particolarmente interessante. Costruirci un'identità significa anche decidere se il nostro scopo è principalmente rivolto a fuori la rete, diciamo così, o dentro la rete. Nel senso, inizialmente io c'ero quando abbiamo fondato questa associazione, la nostra idea di tutti era di fare un gruppo di utenti di Wikipedia sostanzialmente. Poi non era vero, cioè nello statuto c'era un'altra cosa, ma nei fatti era così. C'era un gruppo di utenti di Wikipedia che voleva fare e abbiamo fatto la faccia pubblica formale con un indirizzo e in un certo senso con un numero di telefono di Wikipedia. Poi in realtà con l'andare del tempo ci siamo accorti, abbiamo deciso che dovevamo spostarci verso l'esterno, da cui appunto lettera 27, Liber, e non so, le frontiere digitali, eccetera, eccetera. Secondo me il nostro scopo principale, ma questa è una mia opinione, poi dovremmo deciderlo a un certo punto magari formalmente, cioè formalmente, insomma, dovremmo esplicitarcelo fra di noi, il nostro scopo è più verso l'esterno che verso noi stessi. Guardarci l'ombelico ormai non serve più, non è più utile, perché ormai Wikipedia la conoscono tutti e potenzialmente tutti sanno chi è Wikimedia perché c'è modo di saperlo. Fare lobbying, sì, il punto qui è come, io non ne ho la minima idea, in realtà, se esatto, siamo piccoli ma cresceremo, come facciamo a crescere? Il fatto che lì è un serpente che si morde la cola, siamo piccoli, non lo facciamo, siamo piccoli, va bene. Il networking lo stiamo facendo. Quanto stia funzionando, guardo uno a caso, non so, però lo stiamo facendo. Vabbè, diffondere la cultura libera, ok, iniziative pubbliche, manifestazioni. Vabbè, diciamo che secondo me qui un punto strano, interessante è questo, e l'altro è, diciamo, non è strano, non è una cosa che abbiamo sempre voluto fare, però dovremmo iniziare a pensarci più... Magara, esatto. Questa invece è la seconda parte in cui io ho messo le cose che vorrebbero noi facessimo, ma in realtà noi non vogliamo fare o non possiamo fare. Una prima parte è occuparsi direttamente di Wikipedia, cioè fare da moderatore, procuratore legale, difensore delle cause perse, eccetera, eccetera. E la mia domanda è, appunto, ma la faccio, l'ho scritta perché volevo farla, e voglio che alziate davvero la mano, chi è che vuole prendersi questa rogna? Cioè qualcuno è interessato da fare moderatore, beccarsi le querele, pagare un legale, eccetera, eccetera? No, ok, la domanda è tendenziosa, ok, cerco di farla. Secondo voi occuparsi direttamente di Wikipedia da un punto di vista di gestione, di supermoderazione dal punto di vista legale, potrebbe, in questo momento nello statuto non c'è, anzi è proprio negato, ma potrebbe essere uno dei nostri scopi. Cosa? Quello è un'altra faccenda, però passando per WMF potremmo potenzialmente. Dimmi. No, io, come dire, io sono, questa è la fredda cronaca, questo è il riassunto di quello che ci hanno chiesto. Io sono contrario, non è una mia proposta, però sostanzialmente quello che ci hanno chiesto. Ok, no, nel senso, io appunto volevo chiedervelo in pubblico, io sono contrario, spero che, in una mia speranza è che a tutti sia chiaro che questo non lo possiamo fare. Vabbè. Creazione di contenuti per wiki, allora, questo è borderline, da una certa parte l'abbiamo fatto, nel senso che con Wiki e Tom, Christian lo può testimoniare, e Aubrey anche, che credo abbia fatto... che in questo momento non vedo, vabbè, che credo che abbia fatto l'intervista per Wikitom di più successo, che ha avuto anche riscontri internazionali, non so, esatto, tradotte in 4 lingue, eccetera, eccetera. Ma vabbè, è stato invitato, no, ripeto perché magari non ti sento. Vabbè, è stato invitato a Wikimania ma non c'è andato. Va bene. Questa è una domanda che, vabbè, non è che dovete rispondere adesso o dobbiamo discutere adesso, però che bisogna farci. È nostro compito creare dei contenuti? In parte lo facciamo. Christian, l'alto Christian, in realtà ha creato partecipazioni con noi dei contenuti per Wikipedia e per i progetti Wiki. Wikitom è un altro esempio. Secondo me non è il nostro scopo principale. Il progetto video con Christian è stato fatto per ragioni sostanzialmente, come definirli, pubblicitari, no? Di marketing, di aiuto, informativi, culturali. E questo va bene. Sì, appunto, ma dico, cioè, non è, lo scopo non era creare un contenuto, era promuovere i contenuti. Poi volevo scusarmi con Epanto, che non so chi sia, che dice che dovremmo avere più attenzione per gli utenti di Wikimedia, perché dopo il versamento di dicembre non ho ricevuto neanche una mail di risposta. Non so chi sia, non so se è vero, però nel caso mi scuso. E va bene, ho quasi finito. E questo è le critiche. Altri 5 minuti e poi sarà finito. Allora, se Wiki indipendente a VMI dipende solo dal web e dai suoi utenti, come fa l'utente normale a capire l'utilità di VMI? VMI, se non ho capito male, almeno gestisce i server. Prego. No, cioè in questo momento non lo sono, ma in passato sono stato amministratore, ma le cose che facevo da amministratore le facevo da amministratore di Wikipedia. Poi ero anche un socio di VMI, però, come dire, erano due cappellini diversi. Allora, seconda critica: non abbiamo massa critica sufficiente per fare le cose, che sia utile e fuori discussione, ma per essere molto utile dovremmo essere più conosciute, avere una base di sostegno maggiore soprattutto tra i giovani. Vero, cosa fare non so. Qui ripete la stessa cosa di prima. Per noi è più importante la comunità o più importante l'esterno? È una cosa che bisogna, come dire, dobbiamo fare introspezione e deciderlo. Vabbè, qui sostanzialmente dice di pagare qualcuno, se non ho capito male, e anche questa è una cosa su cui riflettere. E qui la cosa che io ho detto, che la nostra compito principale, viene criticato, cioè il fatto che noi facciamo public relation, che in realtà è il nostro scopo principale, viene considerato un errore, visto che il nostro scopo principale qui è un problema di comunicazione. Bisogna o ce ne freghiamo, che è quello sostanzialmente che abbiamo fatto finora, oppure bisogna riuscire a... nei loro confronti sì. La comunità, cioè parte della comunità, non ha capito qual è il nostro obiettivo, ci confonde con qualcun altro, e quando noi facciamo quello che ci siamo proposti di fare pensa che sia un nostro limite. Dimmi tutto. Sì, ho finito. Vabbè. Sono stato troppo lungo e ho finito. Ciao. Domande? Assolutamente sì. Tieni conto che la cosa è nata perché io ero in chat con Frida. No. No, io ero in chat privata con Cida, ho detto dobbiamo fare qualcosa, cosa facciamo? Un survey, come facciamo con Google? Dai, prova a fare uno, ma com'è? Dai, lo faccio vedere a qualcuno, e senza che me ne accorgessi è partito il survey. In realtà era una prova, quello che avevo fatto, l'avevo fatto vedere a due amichetti e in realtà è partito. Cioè questa è stata tutta la progettazione della cosa, come spesso succede la prima volta. La prossima volta si può parlare con Alberoni e farglielo fare a lui, non so. Come? Velocissimo, perché alle 6 dobbiamo lasciare la sala e manca ancora roba da fare. I francesi invece stanno pensando. I francesi, dove per francesi intendo Wikimedia France, ci hanno chiesto come l'abbiamo fatto, perché loro in realtà vogliono farlo fare da una società, cioè vogliono fare una cosa seria, nel senso, no, non seria, una cosa strutturata e scientifica, posso dire scientifica? Ok. Non che non sia serio quello che abbiamo fatto noi, scientifica, punto, in quel senso lì. Ok, allora, prima cosa da fare, scusate, annunciare i risultati dello scrutinio. Allora, 43 votanti, compresi di 16 deleghe, di cui 3 schede non votate, persone che erano andate via. Il conteggio è venuto bene al primo colpo, per cui parto dal fondo. Ultima preferenza, Sergio D'Afflitto, Black Cat, 3 voti. Penultimo, Laurentius, con 9 voti. Primo non eletto, Senpai, con 17. Primo eletto, Aubry, con 23. Draco, con 32 voti. Passa. Cotton con 36 voti, poi a sorpresa un ex equo, Frida e Christian con 38 voti. Qui dico solo, Frida, fallo fuori prima che superi il maestro. Ok. Quindi il board è composto da Frida, Christian, Cotton, Draco e Aubry, che invito sul palco. Che vadano fuori. Intanto qui facciamo uno spettacolo di cabaret con scimmie, nani e ballerine. Venga a fare l'appello. Se qualcuno ha domande, se le prepari brevissime, che poi lascio 2 minuti di questo time. Approfitto del buco perché tra qualche settimana, se tutto va bene, la ditta che per conto del Comune di Roma ha ristrutturato questo edificio, forse è meglio fatto una premessa, da parecchio tempo con il Comune di Roma si parlava di prendere una sede in comune, Liber, Wikimedia Italia e le biblioteche del Comune di Roma. Perché fare una sede comune per partecipare a dei progetti, fare delle proposte, eccetera, eccetera. C'è voluto un pochino di tempo, alla fine ci siamo riusciti, quindi ho fisicamente in mano le chiavi di questa struttura. È abbastanza grande, sono 2 piani con 5-6 stanze ciascuno, più un terzo piano dove però c'è solo l'ascensore, un locale con caldaia, contatori, eccetera, quindi lo spazio è abbastanza buono. Sta all'interno di un complesso fatto di 3 edifici. Principale, dove ci siamo anche noi, c'è una sala conferenze che ha più o meno queste dimensioni e che dietro prenotazione possiamo usare anche per fare eventi. Uno dei 3 edifici è invece una mediateca, ci sono decine di postazioni di computer nuovissimi, banda larga, eccetera, eccetera, in libera consultazione. Basta fare la bibliocard del Comune di Roma, costa 5 euro l'anno e dà accesso a wifi, a alcuni servizi come il prestito di libri, DVD, eccetera. In questi uffici, in queste stanze, io pensavo di aprire 3 laboratori, un laboratorio di montaggio video, uno di montaggio audio e uno un laboratorio ebook. Per attrezzare queste strutture, per alcune cose provvedo personalmente, ho una serie di computer, di cose che non mi servono più e che quindi possono bastare per creare un 5-6 postazioni. Per il resto, in particolare il montaggio video, sicuramente servirà uno sponsor, un po' di soldi. Chi vuole dare una mano alla sede romana è benvenuto, ci serve sicuramente un aiuto. Il vantaggio è che il presidio lì sarà sempre quotidiano, perché io proprio sposto i miei uffici lì, quindi saremo circa 4 sempre presenti, però ripeto, le stanze sono 10, quindi non ci sarà un problema di luogo fisico. Una poltrona d'oro zecchino con scritto Frida ferma lì, ma le altre sono tutte utilizzabili. Esatto. E quindi nel caso scrivetemi, chiamatemi, eccetera. Marco Calvo, il mio nick originalissimo. A seguito di riunione lampo del nuovo direttivo, ho il piacere di presentarvi il nuovo vicepresidente Roberto Corda. E gentilmente, qualcuno di voi ha uno specchio, per cortesia? E perché Cotton è molto preoccupato di fare il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo tesoriere. Poi abbiamo il nuovo responsabile dei progetti, che eredita un ruolo difficilissimo, Christian. E infine il nuovo segretario, che non sa che dovrà collaborare con la vecchia segretaria e quindi rischia la vita, Andrea. È un sacco, abbiamo perso il conto. E poi abbiamo la nuova presidente, che è una misconosciuta che non sappiamo perché è stata eletta. Immobili. È tutta una pastetta di potere, comunque. Quando poi avete finito abbiamo quintali di cose da fare ancora, prima che ci buttino fuori. Sì. Direttivi, sedetevi. Via. In effetti mi ricordano che il vicepresidente, in qualità di vice, deve pagare 10 milioni di euro. Oltre alla cena di stasera, ovviamente. Poi devo da mangiare tutti i gatti del vicinato. Allora, eventi futuri, prossimi due eventi in calendario, giusto per raccontargli molto velocemente. Scusa, perché pensi che loro si siano candidati? No. Allora, prossime. Non mi fare adesso, vecchio. Allora, i prossimi eventi, fine mese, questo, Romix, e fine mese l'altro, quindi fine mese di ottobre, Lucca. Su Lucca non abbiamo ancora i dettagli, più tardi arriverà fra un pochino. Sì. Ah, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto... Allora, Andrea Plazzi, che abbiamo conosciuto a Milano e che qualcuno, qualche fumettaro conoscerà perché scrive tutte le introduzioni dei libri e degli albi di Leo Ortolani di Ratman. Le proposte su cui stiamo lavorando per Lucca sono di ripresentare il WikiWall nell'ambiente di Lucca Comics, avendo da una parte delle strip da portare via rilasciate con una licenza Creative Commons, e dall'altra parte non abbiamo ancora deciso se dei fumettisti che disegnino live delle strisce, piuttosto che una voce che si può compilare un'altra volta. Abbiamo pensato che sarebbe interessante fare un festival della qualità su Wikipedia a proposito di fumetti che sono abbastanza bistrattati nell'edizione italiana, e pensavamo di cogliere l'occasione per incontrare un po' di fumettisti e dialogare con loro, magari della loro biografia su Wikipedia, perché molti di loro ce l'hanno. Vediamo un po' che cosa nascerà, il progetto è ancora in fieri. Luca, se vuoi dire due parole su Romix, venghi. Allora, sabato prossimo, all'interno del Romix, che va da giovedì a domenica, è stato organizzato dall'Associazione Wikimedia Italia con un'altra associazione che si chiama Gente di Cartunia, che è un'associazione che riunisce sostanzialmente le professionalità del mondo dei fumetti e dei cartoni in generale. Cioè un'associazione che ha al suo interno fumettisti famosi, doppiatori famosi, sceneggiatori, una marea di contatti infinita, perché vi posso dire che il presidente di questa associazione è colui che è il direttore artistico del Romix, oltre che il cantante di un gruppo abbastanza conosciuto in ambito musicale e cartunistico, perché fa tutte le sigle più famose dei cartoni di Rai 2 di adesso, tra cui Hello Kitty e roba varia. Vabbè. Comunque è di Grosseto, quindi l'ho conosciuto ad un festival su da me, sull'Amiata, che organizza lui. Ci siamo conosciuti e abbiamo tirato su questa cosa. Quindi sarà una tavola rotonda sul fumetto e sulle licenze libere. Ci saranno ospiti il maestro Serpieri, Coniglio editore, un'avvocatessa di Roma che è la moglie di Luca Raffaelli, noto giornalista in ambito fumettistico e che si occupa soprattutto di diritto d'autore per case produttrici abbastanza grosse, tra cui la Disney, Pixar e via dicendo. E ci sarà Mauro Biani, che è un vignettista che rilascia con licenza libera, ci sarà Passepartout, ci dovevano essere i Singloids. Ci sarà Mauro Biani al posto dei Singloids perché non sono venuti. Vabbè, comunque è a mezzogiorno all'interno del Romix. Forse Luca non lo sa, ma noi a Romix ci siamo già stati. A Romix, Wikimedia c'è già stata. Nel lontano 2006 io sono andato a parlare, invitato da Davide Datri, che era uno di una società che faceva musica. Fatto sta, siamo andati invitati dalla sua associazione a uno dei panel. Dirò delle cose bruttissime, che non ne abbiate male. La fiera è abbastanza deludente, è piccola, mal organizzata e si tratta principalmente di un mercatino. Gli eventi erano prettamente a carattere commerciale. Nel nostro panel c'era Sony che presentava il film d'animazione dei pinguini, e c'era una società, credo di comunicazione, che presentava questo nuovo suo business plan in cui praticamente avrebbe fatto soldi pagando dei blogger per scrivere pubblicità. Per cui diciamo che come esperienza 3 anni fa, 4 anni fa è stata tutto meno che positiva, lo dico proprio. Per cui vorrei chiedere a chi va di stare all'occhio per cosa incontrerà. Non so se ci sono soci romani che verranno, ma credo in generale ci sarò probabilmente solo io. E vabbè, spero che in questi 3-4 anni si siano un po' evoluti. So che la fanno la nuova fiera di Roma. E so che la fanno non in un unico padiglione, ma ne hanno diversi. Ne hanno più di uno, credo almeno 2 o 3, perché ne hanno uno in cui fanno solo mercato e poi ne hanno altri in cui fanno altre cose. Vabbè, Federico, spero che sia una cosa positiva, se fa cagare non ci andiamo più. Grazie. Next step, idee da wiki, l'abbiamo già citato stamattina e l'abbiamo già accennato. Una serie di input che abbiamo raccolto dalle varie comunità di progetti wiki su che cosa possiamo fare per i progetti come Wikimedia Italia. Abbiamo invitato un po' di persone che hanno partorito delle idee, che ci hanno suggerito delle idee, di venire oggi a raccontarcele un po' meglio, in maniera un po' più dettagliata, per provare a portarle avanti insieme. Christian, che ha seguito la cosa? Chris? No, tu. Sì? Chiama le persone e basta. Sì, scusate per la momentanea defiance. Allora, tra le idee inviate, ne sono state inviate 37 in poco più di due settimane, questa cosa ci ha fatto molto piacere. Alcune erano molto buone, altre erano semplicemente infattibili, nel senso fuori dai nostri scopi. Noi ne abbiamo selezionate 7, non tutti sono riusciti ad essere qui perché la selezione è avvenuta praticamente 3 giorni fa e speriamo che in futuro faremo tutto un po' prima. E comunque le idee selezionate sono state quelle di Andrea, che è qui, Obri, e poi Andrea Landriscina, anche Gardanus, che invito a venire qui, e Silvio Gallio, in arte Horatius, che invito anche lui a esporre brevemente la loro idea. E abbiamo anche un paio di slide mandateci da Valepert Valerio via mail, che vedremo se riusciamo a esporle. Chiedo a tutti e tre di essere brevissimi perché abbiamo poco tempo. Prego. Io sarò brevissimo, dato che tra le idee presentate il mio non era un progetto pratico, altri erano molto più focalizzati. La mia era appunto semplicemente una direzione, quella che ho detto prima durante la mia candidatura, cioè di concentrarsi su liberazione di materiale, di cultura, quindi appunto da biblioteche, gallerie e musei, e anche nel discorso dell'educazione. Questa, in due parole, è comunque una direzione molto larga, ci sono vari progetti fatti da altri chapter e noi appunto possiamo prenderli a modello, scegliere alcuni esempi, alcune cose fatte sia con università che con scuole che appunto biblioteche. E la mia proposta era appunto di insomma evidenziare questo aspetto e lavorarci tutti insieme come associazione, punto. Salve. Sono Andrea Landriscina, io insegno al Conservatorio di Musica di Fermo, sono titolare di direzione di coro nel Dipartimento di Didattica della Musica e lavorando nel Dipartimento di Didattica della Musica sono a contatto con scuole, con tutto ciò che è la didattica e ho notato un enorme punto di luce di Wikipedia, cioè è la prima fonte di informazione per i nostri ragazzi. In assoluto è la prima, cioè non esiste nessun altro testo più consultato, più utile, eccetera. Per cui mi sono posto questo fatto, cioè delle voci cattive su Wikipedia sono cattive per la società. Cioè la crescita di Wikipedia in questo momento ha un impatto, proprio la crescita qualitativa di Wikipedia ha un impatto enorme sulla cultura dei nostri ragazzi, sulla loro possibilità di studio, sulla loro possibilità di preparazione, essendo di gran lunga la prima e spesso l'unica, questo mi dispiace, ma spesso è l'unica fonte di informazione. E allora, dopo aver verificato questo aspetto, ho fatto questo, visto che io mi occupo di didattica, quindi devo insegnare a divulgare, a molti allievi ho permesso di dare degli esami che consistevano nel, quindi la mia idea non è un'idea del futuro, ma sono 3 anni che già faccio questa cosa, alcuni miei allievi come esame finale di un lavoro sulla divulgazione scrivono o migliorano o perfezionano un articolo o parte di un articolo di Wikipedia, perché a volte ci sono degli articoli che sono giganteschi come competenza disciplinare, pretendo per esempio che ne facciano soltanto una parte, oppure non so, ci sono degli articoli fatti abbastanza male, abbastanza trasandati, oppure degli stub, e allora li faccio espandere, eccetera. Io segnalo a questi studenti, prima dell'inizio del corso, segnalo praticamente una lista di articoli molto malandati che hanno bisogno di essere resi migliori, ovviamente riguardo poi alla mia competenza disciplinare che è coralità, vocalità, storia della musica, eccetera, e su questa competenza disciplinare allora faccio il mio corso, è innanzitutto un corso dove spiego come funziona Wikipedia, soprattutto cosa è il punto di vista neutrale, che è l'argomento drammatico, perché tutti credono di sapere cosa vuol dire, ma invece è drammatico il punto di vista neutrale, perché vuol dire, pone anche poi grossi problemi di coscienza, peraltro, perché se c'è una teoria che è accettata dal 90% degli studiosi, una del 10%, riporto anche il 10%, no, non sempre la cosa è banale. E poi che cos'è lo stile enciclopedico, cosa vuol dire? Insomma, facciamo prima un mini corso su come si scrive per Wikipedia, vedendo anche degli esempi, eccetera. E dopodiché l'esame consiste nel fare l'articolo. Io già da tre anni faccio corsi di questo genere, dove gli studenti possono appunto scegliere come esame di finale di fare un bell'articolo per Wikipedia. I ragazzi sono motivatissimi, perché alla fine il loro lavoro si vede, è in linea, tutti lo possono notare, possono dire a tutti guarda che bel lavoro che ho fatto, cioè è assolutamente, cioè non è l'oscuro esame complementare per il quale ti devi smarronare un libro. Nonostante non abbia, ma questa è la, allora questa è la prima cosa che gli faccio sapere, cioè e anche perché non hanno la firma sotto. E comunque anche grandi lavori collaborativi non hanno la firma sotto, cioè la firma sotto è sempre una garanzia di unicità, non di collaborazione, no? E tra l'altro su questa cosa sto per esempio coinvolgendo dei colleghi per esempio dei dipartimenti di storia, perché per esempio loro hanno molta più possibilità, molti più allievi, molti... Non ci sono riuscito ancora tantissimo, però insomma sto cercando di coinvolgerli, perché vedo che uno, il miglioramento di questi articoli ha un impatto diretto proprio sui nostri ragazzi, e vedo che gli studenti sono motivatissimi a fare come esame un articolo per Wikipedia. Ecco, grazie. No, allora quello che propongo è, ci sono tanti corsi universitari, cioè io insegno nel dipartimento AFAM, noi siamo cugini delle università, però insomma, nelle università si potrebbe anche far partire una cosa del genere, cioè io lo sto propagandando anche in diversi altri conservatori dove i dipartimenti storici e didattici lavorino su questo, però... Anche nelle università si potrebbe partire con cose del genere, anche perché sto parlando di cose già realizzate, non sto parlando di progetti futuri.